che mi portate a fare coppa fusilla che si non mi vuoi più bene. La zanzara. Nuova, ti ho comprato però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. La Sarsi a Ballarò, ma a proposito, scusi Sarsi, ma cosa ci fa lei in televisione? Lo sa che se la vede Casaleggio, le mette la stagnola in testa, le fa fare il pannello fotovoltaico. Cosa fa? Sarsi, si faccia vedere, perché lei è una novità assoluta a Ballarò, è la comparsa di una nuova specie. Speriamo che non faccia la fine della nuova lucertola australiana, non so se l'ha vista, hanno scoperto la lucertola in questi giorni? Appena l'hanno scoperta è già a rischio di estinzione. Maurizio Crozza si riferisce a chi? A Federica Salsi, una del Movimento 5 Stelle, consigliere comunale a Bologna, oggi pesantemente redarguita da Beppe Grillo. Beppe Grillo le ha detto: la TV è il vostro punto G, il solito quarto d'ora di celebrità descritto da Andy Warhol, che dà l'orgasmo ai parenti che guardano da casa, e dunque ai talk show non bisogna andare. Ma sentiamola la voce di questa Federica Salsi. Federica Salsi, un punto di vista importante. Lei come legge quello che è successo in questo weekend, al di là della vittoria della Sicilia di cui ora parleremo? Io tempo fa andai ad una trasmissione e c'era un esponente del PDL che diceva faremo la PDL 2.0. E tutto passerà. Il diktat di Grillo, non andare in televisione, decido io chi, come e quando. La fatua vuoi dire? Ma quale fatua? Se uno decide di far parte del Movimento 5 Stelle, decide di sottostare alle regole non decise da Grillo. Oggi, guarda, non fammi arrabbiare perché mi girano. Questo decide coglioni. Una regola, non andate ai talk show. Secondo me giustissima, regola giustissima, guarda, partiti, regola giustissima. I partiti sono una roba, i movimenti sono una roba, non è che arriva uno e impone. Ma non è impone. Elette, se vuoi andare lì, se vuoi andare lì, se vuoi andare in quel partito, lì, in quel signore, movimento. Questo signore, ma cosa c'è? Questo signore che ha attraversato Scilla e Cariddi a nuoto e che ha vinto le elezioni in Sicilia. Benissimo. Non è Ron Hubbard, cioè il capo di Scientology. Quella gente lì, per fortuna, cioè se i grillini fossero. Ma non persone, sei obbligato, sono, altrimenti vai via dal partito. Vai via, vai via. Ma che razza di vai via dal movimento, ma se vuoi andare ai talk show, via, show, via, show. Che adesso difendi il Ron Hubbard della politica. Io non sto difendendo, io sto dicendo che le regole di quel movimento sono quelle. Ci vuoi stare? Ci vuoi stare? Ma Favia, io sto ad esempio con Favia, ma chi se ne frega di Favia, ma chi? Che giustamente è stato eletto. Sta facendo Vabbè, una battaglia. C'è tempo, aspetta, stai zitto, lascia perdere. Favia, sono le 18.36, questa è la zanzara De Magistris contro Di Pietro. Fatti da parte, sentiamo. Il partito deve affrontare in modo serio la questione morale, perché se le mele marce aumentano diventa un frutteto, che i partiti personalistici non vanno bene. Il nostro amico Romano La Russa, consigliere regionale in Lombardia uscente, credo di non ricandidarmi. Sentite come risponde però. La Russa, posso chiederle come? No. Questa è l'imitazione di suo fratello? No. L'imitazione di suo fratello. Che vuole? Vorrei sapere. Non comprendo se lei parla con questo tono, io sono italianissimo, da 50 anni a Milano ho dimenticato questo. Si ricandida? Credo di no, ma deciderò insieme al partito. Che vuol dire, caro amico La Russa, Romano La Russa, deciderò insieme al partito? Se uno si vuole ricandidare, si ricandida, dice sì, io vorrei, poi bisogna vedere naturalmente. Altrimenti se uno dice no, non mi ricandido perché non mi voglio ricandidare, perché deciderò insieme al partito. Beh, perché comunque un minimo di un'idea minima di come funzionano i partiti, le cose democratiche. Crocetta contro Renzi. Si faccia un contributo di solidarietà per le 440.000 pensioni che prendono più di 4.000 euro al mese, che sono state fatte tutte col retributivo anziché col contributivo, e si vada in... Scusa. Perché non posso finire? Chiamato Pio La Torre. Guarda, scusi, la politica è una cosa seria. Scusi, Floris. È una cosa seria. Io penso che bisogna favorire l'ingresso dei giovani, delle donne nella politica, però non puoi parlare questo linguaggio di persone che magari hanno una storia sicuramente migliore di te, ecco. Avresti rottamato anche Pio La Torre. Crocetta ha espresso la propria preferenza nei confronti di Bersani, Senti questa cosa della Santanchè. Berlusconi come i cattolici, cioè i fan di Berlusconi come i cattolici, i tifosi di Berlusconi, gli elettori di Berlusconi sono come i cattolici, senti. Ha cercato, non riuscendoci completamente, a fare questa rivoluzione liberale, però continuando a battersi per la rivoluzione liberale. Vede, anche chi è cattolico non perde la fede perché sa che ci sono dei preti pedofili, ma continua a avere quel credo. Basta fare una puntura. Cioè, nonostante i preti pedofili, e si continua a credere nella religione cattolica. Il paragone è un po' ardito, diciamo. Molto ardito, molto ardito. Gasparri e La Russa si facciano un loro partito. Gasparri e La Russa, io fossi loro, cosa che ho detto apertamente alla Russa più volte, farei un partito, perché ci voglia di destra in questo paese e dovrebbero assolutamente farlo. Era un ingroia un po' su di giri quello intervistato, credo, dal Corriere della Sera e da altri, forse, mentre brindava. Qualcuno ha detto addirittura ubriaco. Tornerò tra meno di un anno. Una minaccia o una promessa? Beh, è un po' difficile, diciamo, disegnare il futuro. Quello che è certo è che il mio impegno in Guatemala è temporaneo. Stava bevendo. Il mio saluto all'Italia non è un addio, ma un arrivederci. Dopodiché, tra un anno, anzi meno di un anno, secondo il contratto che ho stipulato al Guatemala, io tornerò in Italia comunque, a Palermo, altrove. Questo dipende dalle condizioni che ci saranno nel momento in cui tornerò in Italia. Ma l'hai sentita questa voce un po' impastata? Ma che c'è? No, io non farei ironia su questo. No, ma ti assicuro, di grandissima dignità. Ma quale, che c'entra la dignità? Ma ti assicuro, lascia perdere adesso il contenuto, che non è nullo il contenuto di questo discorso. Torno tra meno di un anno, no? Ma è la voce impastata, dovevi vedere le immagini, col calice in mano. Aspetta che mi sta chiamando il segretario di Sky, il portavoce di Bonanni. Mi scusi solo un portavoce di Bonanni. Sì, scusami. Ma chi se ne importa? Salvo, caro, come stai, Parenzo? Ciao, scusa, sono in diretta alla Zanzara, quella trasmissione con il signor Cruciani, una roba, vabbè. E no, bella trasmissione, per carità, ci lavoro da anni. Volevo dirti solo questo, che ti richiamo dopo così organizziamo il collegamento di sabato, perché vengo giù a Pomigliano. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega che vai a Pomigliano per la 7? Non ce ne importa questo, nulla. Poi ti spiego tutto, questa roba nuova della Fiat. Poi ti chiamo subito dopo la trasmissione, perché sono in diretta. Ah, la grazie, Fiat, sì, Marchionne è un genio, sì, Marchionne è un genio. Immaginavo dicessi questo. Marchionne è un genio. Lo temevo. Alla guerre come alla guerre. Lo temevo. Questa, ecco, questa cosa qui, diciamo. Alla guerre come alla guerre. No, dopo c'è oggi tempo. Sono veramente c'è tempo. Molto arrabbiato. C'è tempo, c'è tempo. Non fai la tua solita cosa operaista dopo i. No, no, no, è un classico dopo, ricatto, una dopo i formaggi, ripicca. Dopo lo champagne. No, ma che champagne probabilmente. Vai, vai, vai, fai la è tua. È una classica ripicca di un uomo alla guerra, di un come uomo alla prepotente che scambia i diritti come merce. Ecco, allora, ecco il comizio, ecco il comizio. Reintegrate da no. Stai zitto, tranquillo, c'è tempo. Questo è molto serio. Mettete giù il volume, mettete giù il volume, togliete il volume. Alle 18.42 siamo alla Zanzara, è iniziata in questo modo. Abbiamo con noi, beh, caro Parenzo, abbiamo con noi un neo consigliere regionale, neo onorevole, così si chiamano in Sicilia. Un nostro amico ci ha chiamato in diretta anche qualche giorno fa, prima delle elezioni, piccato per qualche nostra osservazione o per qualcosa detta da altre persone. Salvatore Toti Lombardo, buonasera. Ciao, ciao, buonasera. Come sta? Come sta? Bene, bene, bene. Contento? Ora meglio. Contento? Ora meglio, certo, certo. 9.000 Totti Lombardo? Sì, dimmi. Ma è parente? Beh, figlio, certo. Ah. Secondo genito. Ricominciamo come l'altra volta, no? Ma è un cretino, no, una battuta ridicola, lo sa benissimo. Parente? Ma certo, 9.633 voti, secondo eletto nel partito dei siciliani, ex MPA. Anche se si fosse chiamato Totti Bubù avrebbe preso lo stesso, perché sai questa ironia? Dica la verità, Lombardo, dica grazie papà per questa elezione. Grazie papi. Già fatto. Cioè, che cosa gli ha detto? Tra qualche mese mi chiamerete o chiamerete mio padre e forse direte, ma lei è il padre di Totti Lombardo? Forse poi diventerà al contrario, vedremo. Beh, questa è bellissima però, eh? Questa è molto bella, devo dire la verità. Tra qualche mese, non so se se l'è studiata, però non è male. Cioè, no. Tra qualche mese mi chiameremo Lombardo, Raffaele Lombardo, ma lei è il padre di quello importante là, di quello che ha fatto un sacco di cose, di quello che... No. O no? Speriamo, vediamo. Cioè, quanto deve... È importante per questo, per le cose da fare, spero di... Vabbè, certo, quello è chiaro. Scusi, quanto deve a suo padre per l'elezione? Me lo dica, però, lei è molto sincero. Vabbè, tanto. Tutto. Su numeri è difficile. No, tutto. Ma come no? È stata una campagna elettorale difficile, non è stata una campagna elettorale dove si poteva calcolare... Ho capito, ma lei chi lo conosceva in Sicilia? Se non si chiamava Lombardo non lo leggevano, scusi. A Catania qualcuno mi conosce qualcuno. Beh, a Catania. Ma su 9.600 voti, quanti sono di suo padre? 9.631? Ma come si fa a fare un calcolo di questo? Voi lo sapete fare, se lo sapete ma fare, no, aiutate, non lo possiamo fare. Però è stata una grande mano, un grande impegno, ci mancherebbe, è stata una sfida difficile, ha riguardato anche grazie, il mio cognome. Papà, sì, certo. È quello che ha rappresentato, l'ho fatto già ieri un incontro pubblico con più di 1.000 persone, quindi abbiamo ringraziato quello lo sappiamo, in testa lui per quello che ha fatto. Però mi dica la verità, 9.633 voti, tutti di suo padre, su, tutti di suo tutti padre. Tutti no, non è così. I suoi compagni di classe, ex compagni di classe a scuola. Tanti ne abbiamo, compagni di classe tanti, non per quello abbiamo fatto tante volte la scuola. Siamo sinceri, Totti, mi dia retta 30 secondi. Lei deve tutto a papà da quando era nella pancia di mamma, quindi grazie a quella sera che loro, anziché andare al cinema, fecero questa cosa straordinaria di fare un figlio, quindi da quel momento là, fino ad oggi, lei deve tutto a papà. Tutto no, non è così. Tutto. Da quando c'è stata quell'atto meraviglioso d'amore, signore, no? Al signore, beh, certo, al signore quello sì. Nascere, giusto, visto che abbiamo partito dal concepimento, no? 24 anni, studia giurisprudenza a Roma, cioè, lei, scusi, in Sicilia quanto ci ha vissuto alla fine, fino a che età? Ci ho vissuto fino all'età di 18 anni, poi sono andato a Roma. A Roma. Esatto. Com'è che siamo così in ritardo sugli esami, signor Lombardo? In ritardo no, abbiamo perso un anno. Abbiamo perso un anno perché ho fatto un cambio di università e poi... Ah, lei ha cambiato, dove era iscritto prima? Ero iscritto in un'altra università di Roma, poi ho cambiato e sono alla LUIS ora. Alla LUIS, dall'università di Roma, cioè da quale? Scusi, da che facoltà? Sempre giurisprudenza. Da giurisprudenza, ha cambiato, ma insomma, quanti esami ha fatto fino adesso? Già, io l'ho detto l'altra volta. Me lo ridica. Sempre sulla questione esami. Me lo ridica. L'esempio. No. Poi vi inviterò alla mia festa di laurea. Saremo no, ma scusi, adesso qui non è che la gente ascolta tutta l'Italia ascolta la Zanzara. Noi speriamo naturalmente che sia così. Ancora non è così. Allora, siccome l'altra volta probabilmente nessuno ha memorizzato. Lei quanti esami ha fatto? Hanno memorizzato e già l'ho detto e l'ho spiegato anche in diverse interviste che possono trovare. Mancano pochi esami. Non interessa questo. Ma come non interessa? Ma lei fa consigliere regionale ormai. Diretto dalla mia festa di laurea. Così anche lì dimostreremo che anche la mia laurea è dovuta sicuramente anche a mio padre. Pochi esami quanti? Pochi esami? No, quella laurea che c'entra suo padre. No, non lo so, anche questo possibilmente. No, quello anche no. Il diploma al liceo classico. No, dovuto, quello no. Padre, no non mette in giro ste voci, sennò qualcuno pensa che lei abbia... non lo so, visto che no, scusa, quanti questo, esami no? Le mancano su, Totti? L'ho detto l'altra volta, gli mancano otto esami. Ma è tantissimo! Ma come tanto? Ma come facciamo adesso? Insomma, lei deve lavorare per la regione. Noi lavoriamo per la regione e utilizzeremo anche le materie che mi mancano in giurisprudenza, poche per la verità, perché quelle che possono otto esami. Un paio di anni ci vogliono ancora, No, molti sono esami di specializzanti del profilo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Qualcuno scrive a proposito di Marchionne, il licenziamento dopo la riassunzione di quelli della FIOM, una storia complicata, aspetta una rappresaglia indegna di un paese civile. Peraltro è una persona che conosco, che stimo, alla guerra come alla guerra, dico io. Ma riprendiamo tra poco questo discorso. Aspetta, perché siamo con Salvatore Totti Lombardo, figlio di Raffaele Lombardo, eletto con 9.633 voti. Diffamazione, perché continui a dire che è figlio di Lombardo? Basta. 9.633 voti eletto all'Assemblea siciliana. Caro Lombardo, lei passa da zero di reddito, immagino a 24 anni o poco di reddito, a quanto? Lei lo sa quanto guadagnerà? No, già io l'ho detto l'altra volta, non lo so di preciso. Ma come non lo sa quanto guadagna? Non lo so. Ma la busta paga, non se l'è fatta? Non lo so di preciso, poi quando sarò lì me lo spiegheranno. Penso ci sarà un ufficio addetto a questo. Mi siederò con loro e mi spiegheranno come funziona, cosa deve essere destinato alle spese politiche. Ma lo saprà più o meno quanto guadagna un consigliere regionale? Meno, penso intorno ai 12.000, 13.000, 14.000, 11.000. 14.808 sembra poi. Lei lo sa, vedi, lei si è candidato? No. Ma è tanto o è giusto secondo lei? Già, l'ho detto l'altra volta che secondo me è un po' eccessivo. Un po' eccessivo. Perché un po'. La politica deve dare esempio e deve dimostrare che è giustamente protagonista, deve anche diminuire. Allora, faccia una proposta. La sua prima proposta quale sarà? Ecco, io lo voglio venire incontro, non vogliamo parlare solamente questo di... Io l'ho detto, io voglio ridurre l'indennità, ma non, diciamo, legandola, dimezzandola, devastandola, perché io penso che se un parlamentare lavora bene, si deve spostare, deve aprire delle segreterie, deve avere dei collaboratori, deve avere del personale che gestisce e approfondisce le tematiche anche legislative. Penso che è giusto. Di quanto si può ridurre secondo lei sto stipendio? Ma se adesso si può ridurre anche del 50%, si può arrivare anche a parlare di 50%. Già l'ho detto l'altra volta. 50%. Allora, vogliamo presentare una proposta? Certo, l'abbiamo detto l'altra volta. Mi stai ripetendo? Ma no, ma quella è importante. Eravamo in campagna elettorale, lei è consigliere regionale, adesso è diverso. È diverso, è molto diverso. La riprova. Cioè. Vabbè, allora facciamo una cosa nuova. Dunque, la prima proposta sarà quella di ridurre del 50% l'indennità. I grillini dicono 2005, è troppo poco. 2005. No, penso troppo poco, mi sembra esagerato. Scusi un attimo, lei... se Crocetta le chiede, insomma, ma mi appoggi, mi sostieni, insomma, ha bisogno di persone, lo sa, no? Per fare una maggioranza, eccetera. Lei che dice? O le dà fastidio che è un presidente omosessuale? Non credo. No, assolutamente, non penso che uno possa basare il proprio appoggio su, e che ne so, magari queste cose. No, non le dà fastidio questo aspetto. Abbiamo dimostrato in Sicilia anche di essere capaci di eleggere anche un presidente omosessuale, visto che qualcuno pensa diversamente. No. Siamo aperti. Anzi, è stato importante secondo lei, no? Penso che basi le proprie scelte politiche sulla base del sesso. Anzi, è stato importante, no? È stato importante il fatto che ti elegge. È stato importante soprattutto per l'esterno, non per la Sicilia, penso abbia. Però è importante per l'esterno aver eletto con grande serenità. Come era stato importante che lui fosse sindaco di Gela negli anni passati, che era anche all'epoca era un dichiarato omosessuale, ma non penso ci siamo. Comunque è importante per l'esterno che sia stato eletto un presidente omosessuale. Certo. Scusi un attimo, ma lo appoggerebbe lei, Crocetta, all'esterno? Ma io dico che serve un periodo sicuramente di riflessione da parte di tutti, anche di pacificazione. Se ci sono delle proposte utili e interessanti, andranno votate e sostenute, penso, da tutti i parlamentari regionali. Dunque, non ha prevenzione. Dunque, se propone qualcosa di ragionevole, voi la votate tranquillamente. Sì. Patti, stringere un patto invece, signor Crocetta? No. Ma questo non lo so io, questo è il partito a farlo. Non decide lei, il partito preposti, no. Ma lei avrà un'idea. Il gruppo parlamentare, una volta formato, deciderà. Senta, la parola onorevole le piace? Ovviamente non mi dà fastidio, come mi ha dato fastidio in questo periodo quando mi davano del lei, quindi siamo onorevole, non mi interessa fondamentalmente, mi interessa altro, quindi. Dunque non le piace, come i grillini un po', che dicono che bisogna togliere. Rimango Toti. Onorevole non mi piace, no, i grillini la vogliono togliere, dice, no, siamo portavoce del Movimento 5 Stelle. Sì, va benissimo, io sono invece Toti. Toti e basta, Toti. Esatto. Comunque, qualcuno quando l'ha chiamata figlio di papà, lei ha risposto che ipocrisia in Italia lo fanno tutti, che vuol dire? No, ho detto semplicemente che c'è la questione che si è posta nei tutti sono aiutati dai padri, lei dice, no? No, molti sono aiutati dai padri, però c'è un accanimento, c'è stato un accanimento soprattutto iniziale, perché non mi conoscevano e quindi c'è stato un accanimento. Poi penso che dovunque si è figli di qualcuno, poi sta al farsi conoscere ed essere naturalmente bravi. Sì, però voglio dire, lei per dice dicono gli altri. È ipocrisia. Tanti perché... figli in politica hanno fatto tanti figli politici che hanno fatto politica, che sono stati alcuni bravi, alcuni meno bravi. Però scusi Lombardo, però io vorrei capire una cosa. Sì. La gente pensa che lei a 24 anni stava a Roma, sia stato scelto da suo padre per la continuità familiare, per un discorso familistico. Ma io non stavo a Roma, questo è quello che visto. Pensano io tutti. Stavo, aspetti, io non stavo stavo a Roma, noi non dobbiamo costruire immagini, non stavo a Ma Roma. E come no? Studiava. 75 giorni all'anno, no. Io stavo a Roma, seguivo le lezioni, però cercavo come sta. Sono tornato spesso in Sicilia, sono stato in Sicilia tante volte, è molto presente. Diciamo che metà dei giorni li passiamo in Sicilia, all'anno e metà li passiamo a Roma. Certo, come tutti gli studenti. Quindi sono come tutti. Diviso tra la passione politica e la passione naturalmente. Ma la passione politica lei all'università, comunque lei dice ovunque si è figli di qualcuno. Anche nei comuni, abbiamo una classe dirigente di giovani, che so che è una realtà importante del nostro però, partito siciliano. Diciamo la verità, lei... Tanti giovani consiglieri comunali che... Hanno iniziato anche con me dalle scuole e oggi sono amministratori nei comuni della provincia di Catania. Per questo le dico che tutti i voti non sono... Ma se suo padre le dice vota questa cosa qua che è una cosa importante, lei che fa? Naturalmente non è che siccome gli dici di votarla la voto. Valuto, approfondisco, capisco, condivido anche con questa classe dirigente di giovani e insieme a loro decido se votarla. Vabbè, quando no, qualcuno le dice figlio di papà, figlio di papà, per merito di tuo padre sei passato da 0 a 14.000, lei come risponde? Che vuol dire 14.000? Che cosa? Euro, soldi, piccioli, piccioli. Ma vi sembra assurdo, non me ne frega niente di questi 14.000 euro, non mi interessa, non è un pensierino, un pensierino. Si fa politica, dobbiamo smettere di ho capito, ma ci sono tanti banditi e tanti personaggi che fanno politica soltanto per i 14.000 o per i 12.000, ma vi garantisco che queste persone non stanno soprattutto nei consigli a lei non gliene regionali, frega niente, stanno noi... a Roma stanno, che sono gente, come ho detto beh, l'altra volta, pure nei consigli regionali, erano non prima che... porta borsa, autisti, sgualdrine che giravano nei partiti, oggi sono onorevoli, quelli fanno gli onorevoli. Per i 14 chi sono euro. Le sguadrine? Chi sono le sguadrine? Questo. Chi sono no, le sguadrine? Non lo so, dico il Parlamento nazionale penso sia pieno di tanti personaggi ambigui, se vogliamo dire così. Pieno quelli di sguadrine. Politici. Pieno di sguadrine. Chiede a quelli dei 14.000 se sono candidati no, per i 14.000. Ma io non è che le ho chiesto niente, ho detto fa impressione passare da 0 euro a 14.000 o no? Certo che fa impressione, ma ci mancherebbe, ma voglio dire, a me fa molto più impressione e fa molto più piacere passare alla possibilità di sedere nel Parlamento più vabbè, certo. E fare delle leggi utili alla Sicilia, questo mi fa molto più impressione e questo voglio fare. 14.000 non me ne frega nulla onestamente, perché certamente non ho la necessità di guadagnare 14.000 euro, perché grazie a Dio me la passo bene, non è questa l'esigenza, giusto? Se la passa questo bene. Ci siamo, no? Benissimo, l'abbraccio, a presto. Grazie. Io la combatto. Eccoci, la zanzara riprende alle 19:16. Caro Parenzo, abbiamo appreso nella prima parte che il signor Toti Lombardo, figlio di Raffaele Lombardo, neoeletto al Consiglio regionale della Sicilia, il signor Lombardo non è molto interessato ai soldi, ai piccioli, al denaro, perché dice che sta bene. Beh, ti credo. Beato lui, no? Perché ti credo? Beato lui, si dice che sta bene di famiglia. Perché ha appena vinto alla lotteria di Capodanno 14.000 euro. Ma dice di non essere interessato, non è interessato al denaro. Dai. Ah no, ma forse non è il figlio, ci siamo sbagliati. No, non è il figlio, ma adesso non prenderlo in giro quando non c'è. No, ma gliel'ho detto anche prima. Comunque, è anche detto, perché rompete le scatole a me con i 14.000 euro? C'è il Parlamento che è pieno di sgualdrine. Così ha detto, testuale. I titoli del TG3 della mitica Bianca Berlinguer. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. La ritorsione Fiat, in mobilità 19 operai per applicare la sentenza che impone di riassumere i cassintegrati Fiom licenziati a Pomigliano. Accordo sulla legge di stabilità via i tagli IRPEF e la retroattività delle detrazioni, ridotto il cuneo fiscale su lavoro e imprese. Il governo riduce le province a 51, election day per Lazio, Lombardia e Molise, la cancelliera ipotizza il 27 gennaio ma coincide col giorno della memoria, l'autority no alla diffusione incontrollata di elenchi dei votanti alle primarie, sul Tarenzi il comitato Bersani, riservatezza già garantita. Al TG3 Vendola, assolto dall'accusa di concorso in abuso d'ufficio per la nomina di un primario, il pianto del governatore, sono una persona onesta. Grillo contro Federica Salzi, consigliere comunale di Bologna del Movimento 5 Stelle, ospite di Ballarò, la TV è il vostro punto G. L'uragano Sandy si sposta in Canada lasciando dietro di sé danni incalcolabili e oltre 50 morti solo negli Stati Uniti, Obama in New Jersey visita le zone disastrate. Mettiti sdraiata sul divano, ora te lo trovo con la mano. So che non è a destra né a sinistra, non è liberale o comunista, non è verde, giallo, rosso e blu, ma ce lo hai tu. E un giorno troveremo il punto. bel dito nell'occhio. È come il pulsante della tele, se lo schiaccio accendo il tuo piacere. Pronto? Sì, cercavo la signora Salsi. Pronto? Pronto, la signora Salsi cercavo. Salsi? Salsi, sì. No, ho sbagliato numero. Mi scusi. Ogni tanto sbagliamo numero anche noi della Zanzara. Magari è una persona interessante, ma lo stesso. Giovanni da Bergamo, 800 24 00 24. Secondo me Beppe Grillo ha perfettamente ragione. Ciao, la televisione è il vostro punto G. La televisione è il vostro punto G. Andate solamente per questione di vanità, per fare contenti i vostri parenti. Se uno ha delle regole, non partecipa alle talk show. Se vuoi ci stai, altrimenti via, show, a casa. Ma chi è il padrone? Certo. L'imperatore cos'è? Certo. Ah, il padrone, non sapevo che i partiti e i movimenti fossero organizzati con gli imperatori, i padroni. Non capisci nulla. Perché non li mette anche sulla pietra del vituperio? A Padova, al Palazzo della Ragione, c'è questa cosa medievale meravigliosa, che è la pietra del vituperio, sì. Dove le persone... Fammi sentire Giuseppe da Verona, che è più interessante. ...venivano spogliate in mutande e poi bandite ai confini della città. Faccia lo stesso l'imperatore Grillo e metta sulla pietra del vituperio i dissidenti. Se vuoi ci stai, altrimenti te ne vai a casa. Giuseppe da Verona. Ciao. Dica. Finalmente riesco a parlare con lei, è una vita che ci provo. Vada, vada. Anche se poi... Un attimino, glielo devo dire perché un attimino mi ha deluso, perché ieri lei praticamente apre le porte alla mediocre, volgare banalità di certe persone che intervenendo hanno trasformato la sua trasmissione. Scusi, no, ho perso un attimo il filo, mi può ricominciare? Allora, io l'ho sempre ammirata, sì. Proprio perché uno dà sfondamento, sì. No? Però quello che è successo ieri, io glielo critico fortemente, perché io è da ieri. Ma cosa è successo ieri? Scusi, non ho capito. Ieri è successo che lei a un certo punto ha detto ad uno degli ascoltatori non me ne può fregare di meno di come la pensa lei, mentre io presumo che in una trasmissione... No, di come la pensa lei non mi sembra di averlo detto, può darsi pure che l'abbia detto, non è escluso. No, ma gli ha detto anche, allora perché viene a rompere le scatole a noi? Ma non mi ricordo, voleva parlare di un altro argomento personale, una cosa di questo tipo. Io ho avuto l'impressione, Cruciani, che chi non è in linea con lei sotto certi aspetti, no? Lei o lo aggredisce o lo taglia. Guardi, questa trasmissione è nata per fare un po' di battaglia sui fatti del giorno. Figuriamoci se io caccio quelli che non la pensano come me. È esattamente il contrario, Giuseppe. Ma infatti, lei, e allora, di che parliamo? Lei su? Non ha perso niente della mia ammirazione, però questo diventa un tallone d'Achille, una breccia aperta per quella signora una che poi aperta. È arrivata e ha detto... Ma quando non potrete più parlare di una certa persona, di che cazzo parlerete? Cioè, quella era eccezionale, quella signora, ma parlava di tutt'altro. Grazie. Francesco da Trani, buonasera. Ciao Giuseppe. Sì, buonasera. Allora, innanzitutto, io chiamo per la sentenza Fiat, la Corte d'Appello. E dica. Però volevo innanzitutto rallegrarmi di che il cosa? Mio governatore, per Nicky Vendola, che è stato assolto. Benissimo, si rallegri pure. Beh, chiaro, perché ero convinto della sua innocenza. Bravo, siamo contenti che lei si rallegri. Voglio dire, sono altrettanto convinto che fosse stato, se fosse stato, voglio dire, condannato, si sarebbe ritirato. D'accordo, un po'. È stato un po' scaltro, è stato un po' scaltro nel mettere la sua testa, nel porgere la sua testa. No, per carità, ma la stretta fa parte della politica. Assolutamente, assolutamente. Da 20 anni, tra le altre cose, quando si facciano ancora politica. Non capisco più niente. Maria Teresa da Prato. Buonasera Cruciani. Dica. Le volevo dare un consiglio per la trasmissione. Non faccia più intervenire gli ascoltatori, perché gli rompono le scatole, chi fa i pipponi, chi parla di un argomento già vecchio, questo. Fate voi, lei e Parenzo. Sì. Come Teresa. Ieri sera per un'ora e voglio andare in villa a Malindi dall'Utri, voglio andare da Dell'Utri, no, dall'Utri. Dell'Utri, da Dell'Utri, signora Maria Teresa. Tanto se ho sbagliato. No, ma non era un rimprovero, insomma. Ecco. E poi gli vorrei dire un'altra cosa. Mi dica. Per lei, Parenzo è come la coperta di Linus, non ne può fare a meno. Pronto? Vabbè. Sì. Sì. Ho capito, non ne posso fare a meno. Lei ha ragione. Rosanna da Imperia, grazie. Veloci, veloci, Rosanna. Veloci. Buonasera. Buonasera, dica. Senta, io intervengo per dirle questo. Se potremmo fare noi italiani normali una class action contro tutti i politici di questo paese. Mi sembra una stronzata. una stronzata. Lei dice, sì. Ma lei dice? Sì. Eh beh, c'è sempre la prima volta nella vita. Basta imparare da George Orwell. Quinto Parenzo, rispondi tu. Ma io toglierei dovrebbe insegnare qui. Un attimo, potere. un attimo. Signora San Paolo, buonasera. Sì, buonasera. Cerchiamo il signor Amort, padre Amort. Sì, chi è? Sono Cruciani, grazie. Buonasera, guardi, in una gentilezza però dovrebbe richiamare domani mattina. Come mai? No, perché prima ho chiamato e ho detto di chiamare più tardi. Ah, benissimo. Allora un attimo. Me lo passi, grazie. Pronto? Sì. Buonasera, padre Amort, Giuseppe Cruciani, Radio 24. Sì, salve. Sì, dunque adesso la mia memoria è spenta. Sì, lei sì, sì, sono Cruciani, Radio 24, e si ricorda? Sono... Ci siamo sentiti tempo fa. Come sta? Io sono Parenzo. Grazie, signore. Dica. Come sta, signor Amort? Discretamente, dica. Senta, volevo capire questa cosa su Monti, ma è vero che lei ha detto che è un capo massone che vuole distruggere... No, ma guardi, sono cose che sono state... già pubblicate in internet nel passato, sì. E che il giorno, sì. 14 e 16, sì. In due trasmissioni di internet, sì. Ho smentito. Sì. Oh, 14 e 16 gennaio, quindi è roba vecchia. Ma lei che cosa pensa di Monti? Scusi se glielo richiedo. Non guardi, è uno... non sono in grado di dare... Non è uno strumento nelle mani di Satana? No. Non sono in grado di dare. Ma lei l'ha detta questa frase? Troppo lontano. No, certo, per carità. Indovinare. Per carità. Indubbiamente ci saranno anche cose che se io le chiedessi a lui forse me le spiegherebbe. Per esempio, perché incomincia a impoverire la povera gente e non toccare i ricchi. Ah beh, certo. Anche te prendiamolo, mi direbbe non posso toccarli perché ne ho l'impossibilità. Per esempio, tutti i parlamentari bisognerebbe dimezzare i loro stipendi, i loro mensili, certo. E anche tutti i ministri, e anche il capo dello Stato, anche il capo del governo. E certo, e scusi, perché non lo fa Monti? Perché, probabilmente perché non ha l'autorità di farlo. No, non è uno strumento può nelle darsi, mani. Ossia, potrebbe lui darmi una risposta, io non lo so. Ma il maligno si può essere insinuato dentro di lui, dato che lei è esperto di queste cose? Ma guardi, penso di no. Pensa di no, so. Non lo sa, però ma può essere. Lui, come tutte le creature umane, sì. Avrà le tentazioni del demonio, ma del demonio. Non penso niente di particolare. Niente di particolare. E perché una volta lei... la benedica. No, scusi un attimo. No, perché... Aspetti, padre Amort, è interessante... C'ho un'altra cosa da fare, dica svelto. No, scusi, Crocetta, omosessuale, è diventato presidente della Sicilia. Lei che dice? Anche lui c'ha qualche influenza del maligno, secondo lei? Beh, guardi, se uno è... omosessuale è uno che vive nel peccato. È d'accordo, ma il maligno... Il peccato c'è sempre la zampa del maligno, quando c'è il peccato c'è sempre la tentazione di Satana. Certo, però ma... come tentazione, non c'è non dubbio. Come presenza straordinaria. Ma secondo lei Crocetta ha bisogno di un intervento da parte di... Ha magari... bisogno di pregare. Di pregare. Ha bisogno di Vangelo. Ha bisogno, ecco. Tutti avevano bisogno di quello. Ma le ha fatto... la benedica, se l'ho dato Gesù Cristo sempre. Sempre. Avete sentito padre Amort? Ma io volevo capire quel roba del maligno, non ho capito. Stai zitto che sennò mi metto a ridere, dai. No, io tu non ho capito che roba del maligno, non ho capito. Ho resistito fino adesso. No, fammi ma fare no, ridere. Ho capito, come il suo padre Amort è un esorcista. Volevo capire questa roba bene. Rimandatevi, prego, l'ultima cosa. Il maligno. No, Benedetto, là le cose che ha detto alla fine, non mi ricordo. Che ha detto? Ma non lo so, ma ha detto una roba normale. Sia lodato. Vabbè, quello è una formula. No, sua, no, giusto. Ma è divertente come lo dice, no? Perché poi ha detto con tutto il massimo rispetto. La cosa che non ho capito è tutta questa roba qui del maligno. Perché secondo me il maligno alberga anche alla zanzara. Questo è vabbè, quello non c'è dubbio, guarda. Su per lui è lo stesso padre Amo che ha detto che fare yoga è satanico, no? Sì. Esatto. Fare yoga però, è satanico. Io vorrei fare una telefonata a sera con padre Amor. Tutte le sere padre Amor c'è certo l'esorcismo. Questo mi rimette a una giornata terribile. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. why don't you go home? No me moleste mosquito. Ho bisogno di pregare, ho bisogno di Vangelo, ho bisogno, ecco, tutti avevano bisogno di quello. Signore la benedica, sia lodato Gesù Cristo, sempre. Crocetta ha bisogno di pregare. Però scusa, gli omosessuali hanno bisogno di pregare, vivono nel peccato. La sentenza di padre Amort. Crocetta, omosessuale, è diventato presidente della Sicilia. Lei che dice? Anche lui c'ha qualche influenza del maligno, secondo lei? Beh, guardi, se uno è omosessuale, è uno che vive nel peccato. È d'accordo, ma il maligno... Il peccato, c'è sempre la zampa del maligno quando c'è il peccato. La zampa del maligno! Perché... La cosa che ha detto che mi stupisce, che volevo chiarificare col padre... Ma siamo alla comicità pura, perché te la prendi? No, volevo chiarificare col suo padre Amor, il suo esorcista, che ha detto che fare yoga è satanico. E vabbè, ma poi dice porta al mare come Harry Potter. Ma perché Harry Potter? Che male ha fatto il maghetto? Ma che ne so, no, appunto, voglio capire il perché maghetto. È un maghetto, c'è il paganesimo. Ma che paganesimo? Ma certo, è un mago meraviglioso. E allora adesso cosa proibì? Anche il pirata dei Caraibi porta al male, allora... Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Siete su Radio 24. Ma richiamiamolo un attimo. No, che richiami? Eh? C'è tanta gente da chiamare. Per esempio Gianfranco da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera, grazie. Vada. Io volevo intervenire semplicemente riferimento all'intervento fatto dal signor Lombardi. Signor Toti Lombardo. Toti Lombardi, ecco. Allora, Lombardo, io... Lombardo, stia attento. Lombardo. Sì, allora... Io prometto una cosa, sono calabrese e vivo a Milano da diversi anni. Sì, e vabbè. La cosa che mi ha fatto... Appartiene a qualche cosca, no? Io? Sì. No, purtroppo io non riesco ad appartenere a qualche cosca. Cioè vorrebbe ma non appartiene a nessuna cosca. Vorrebbe, no, ma non appartengo a nessuna cosca. Sto scherzando naturalmente, ci sono moltissimi calabresi che vivono a Milano nel nord senza appartenere per fortuna a nessuna cosca. Ma io da 28 anni a questa parte tutte le mattine mi alzo, vado a lavorare per mantenere la mia famiglia. No, ma certo, ripeto, scherzavo, era una battuta, forse pessima. No, la capisco. Però vabbè, allora... A uno come me dà veramente molto fastidio e questi sono... Che cosa? Cos'è che le dà fastidio? Mi dà fastidio il fatto che in Italia, no, si fanno le elezioni, in Sicilia si fanno le elezioni, dopo che Lombardo è stato lì a gestire situazioni, non ne parliamo di che genere, condannato comunque, inquisito e tutto, alla fine cosa fa? Si presenta al figlio e la gente vota il figlio! È una cosa pazzesca, in Italia non cambieranno mai le cose. E questa è la vera vergogna. Qui in queste cose qua, ma le preferenze, no, ma scusi, Gianfranco, le preferenze non è che arrivano per caso. Il signor Lombardo padre si è rivolto ai suoi elettori e ha detto: votate, fate votare mio figlio. Qual è il problema? Non è un problema. Il problema è scegliere, il problema è decidere, il problema è decidere che ci vuole una sorta di continuità, una sorta di eredità e dunque mandare, fare eleggere un figlio, un ragazzo di 24 anni, universitario, peraltro in fuori corso a Roma, al consigliere della regione Sicilia. Dopodiché se 9.000 siciliani hanno deciso di mandare Toti Lombardo, 24 anni, alla regione Sicilia, saranno affaracci loro, saranno forse problemi loro. Se governerà male e se questo, però capisce pure una cosa, che questa persona qua si permette di dire in radio che lui non va là per i 14.000 euro. Beh, questo meno male. Lui sta bene. Perché sta bene, è ricco. E allora, qual è che è la ricchezza, che è un delitto? No, non sto dicendo questo, è l'offesa. Questa è un'offesa perché lì loro ci stanno perché beccano soldi da tutte le parti, è diverso. Ho capito, beccano soldi da tutte le parti, che vuol dire, Gianfranco? Non generalizziamo, lui non è che ha detto niente di particolare, ha detto 14.000 euro al mese, io non sono lì per questo perché sto bene di mio, non mi interessa niente di 14.000 euro al mese, è passato da 0 a 14.000, poi a lei ha fatto schifo questa affermazione, a me è sembrata, certo, un po' di spocchia, no? Io sto bene di famiglia, ecco, io sto bravo. Bene di famiglia. Un po' di spocchia c'è perché ci si può permettere. Grazie di fare Gianfranco, la saluto, l'abbraccio, la bacio forse anche. Milo da Roma. Eccomi, buonasera. Allora, sì. innanzitutto mi sto ancora grattando dopo l'intervento di padre Chiosi. No. Perché si sta grattando? Padre Livort non è male, però. Eh sì, perché Ponte dei Morti mi intervista questo padre qui sfigatissimo, che tra l'altro qui già sfiga, già è santo a Roma, siamo sotto la stagione Halloween, porta pure male. Ma sai cosa... Le dico di più, caro ascoltatore, leggo qui una dichiarazione di Gabriele Amor, padre Amor, che dice: io ho paura di Satana, è lui che deve avere paura di me, io opero in nome del Signore del mondo e lui è solo la scimmia di Dio, Amor. Vabbè, Milo, allora? Vabbè, no, prescindere da questo, purtroppo la dovevo dire, insomma, uno sfigatissimo. Niente, io volevo... Beh, sfigatissimo, sono un signore, un esorcista, ha detto anche l'esorcicio ad alcuni che naturalmente gli vogliono male, e insomma, uno che è nella storia un po' della Chiesa, un esorcista che ha salvato un sacco di persone di cui il Satana si era impossessato. Insomma, non facciamo gli spiritosi, Sì, l'ho dato Gesù Cristo, sempre. Allora, Milo? Beh, sicuramente il figlio di Lombardo non è altro che uno dei tanti parioli, come li chiamiamo qui a Roma, che alla fine vanno in politica. Qui ce ne abbiamo avuti dei... Che c'entrano i parioli adesso? Un paiolo siciliano, figlio di papà siciliano. Che ha 24 anni, si permette di dire che loro stanno bene in segreto, con tutti i soldi che si è rubato il padre. Ma no, ma adesso, Milo, bisogna provare le cose, non si può generalizzare con tutti i soldi che si è rubato il padre, su, Milo. È dura pensare a questi parioli. Io ci metto anche Marchionne, il signore col maglioncino che si è permesso di fare questo scivolone oggi, ancora una volta su Fiat, clamoroso. Questo signore che è andato a studiare all'estero per poi andare a vendere la 500 negli Stati Uniti, e dopo si è accorto che ha sbagliato. Bisogna andare a studiare all'estero, insomma, questi parioli che continuano a vincere. Parioli, traduca, parioli significa i pariolini, figli di papà. Quelli già ricchi, già ricchi, va bene. Grazie. Edoardo da Reggio Emilia, buonasera Edoardo. Buonasera, un flash. Scusatemi, ma devo esprimere tutto il mio disappunto per la presa per il culo che avete fatto a padre Amort. Sì. Io sono dell'idea che voi abbiate sempre giustamente tutelato anche le minoranze. Consideriamo la Chiesa Cattolica una minoranza. Voglio vedere se avreste preso per il culo così un qualsiasi imam di una moschea di Milano o di Roma di Torino. Sicuramente sì, non si faccia problemi. È sicuro? Ma come no? Guardi, sarebbe caduto il mondo? Una cosa del genere, non si capisce perché non abbiamo preso in giro nessuno, ma a parte questo, voglio dire, vedo benissimo che sono dei manichei talebani, c'è poco da fare, lo sappiamo tutti, io ho lavorato in Iran per 3 anni. Ma perché lei sta parlando degli islamici, scusi? Sto parlando perché io tutelo una minoranza che in questo caso è padre Amor, che è una persona molto anziana, sì. È una persona seria, è una persona che ha delle idee non condivisibili forse, ma rispettabili. E lei ha detto che se faceva fatica a tenersi la pancia da ridere, mi perdoni, rispetto la sua opinione, ma se avessi intervistato un imam che esponeva le tesi della donna nel mondo islamico o cose del genere, che va bastonata, deve uscire col chador, non so se lei dopo avrebbe detto: mi tengo la pancia da ridere. Vabbè, ho capito. Parlato con lei, Edoardo, chiedo, si calmi. Sì, no, per carità, ma lei infatti fa bene a criticare, siamo qui per questo. A me sinceramente uno che mi dice Crocetta in quanto omosessuale deve pregare ed è posseduto dal maligno mi fa ridere, lo prendo come una grande pièce comica e teatrale meravigliosa con questa voce così, no, da anziano esorcista. Marco da Catania, buonasera. Dottor Cruciani, buonasera Parenze, e congratulazioni per la trasmissione. Senta, io sono incazzato nero per questa elezione di Toti Lombardo. Lei di Catania, l'ha votato anche lei, votato. Sì, confessi. No, assolutamente, le spiego anche perché sono incazzato, perché ho giorno 15 ottobre ho scoperto che nella mia azienda che ho costruito con i miei risparmi, quello che facevo il giorno 14 è diventato vietato il giorno 15, perché uno dei luogotenenti di Lombardo si è fatto una legge, ha impacchettato una legge dove dice: guardi, visto che mancano disposizioni transitorie, diciamo che questa cosa però è illegale. Vabbè, però adesso Marco, a noi non ce ne frega niente di quello che le è successo, perché non possiamo scendere nel dettaglio. La sua supremazia, per tenere in vita il partito e dire che comanda lui, ha candidato il figlio, ovviamente capisce bene che non può rappresentare in alcun modo un surplus per la nostra parte. Vabbè, io non lo so, il surplus, le cose, 9600 voti, e chi l'ha eletto se ne assume le responsabilità, poi infatti, vedremo. Gli auguro di perdere lo stipendio per colpa di Lombardo, così la prossima volta che lo voteranno, sì, la prossima volta lo voteranno, penseranno... Adesso non è che la Sicilia crollerà per colpa di Toti Lombardo, è già crollata, per cui... Però voglio dire, siamo già sotto zero. Voto a Lombardo dopo 50 anni di supremazia e voti per biscidare al centrodestra, e parlo da uomo di destra. Vabbè, grazie Marco, basta pipponi politici. Benedetta da Verona, già ne sentiamo troppi da parte dei politici, vero? Pure da parte degli ascoltatori, no. Benedetta da Verona. Buonasera, sono Benedetta. Allora, una riflessione veloce su quello che è stato il commento del neo onorevole Lombardo, di non ringraziare Dio per la sua zelatezza economica, ma di ringraziare gli italiani, perché so di che il governo di questo paese sono degli italiani, insomma Dio non ha fatto una ho capito, magari è ricco, ecco, per altri motivi, per il mestiere, per la famiglia, ecco, vogliamo pensare anche questo, pensiamolo, però diciamo che è stato molto aiutato dal lavoro del papà, perché quello che ho detto è un'offesa verso tutti quelli che si sono dovuti laureare a fior di sacrifici, loro, le famiglie, ma io non ho capito, uno che dice, scusi Benedetta, lui ha semplicemente detto, io la voglio difendere in questo caso, ha semplicemente detto, io a me dei 14.000 euro al mese che guadagnerò la regione non me ne frega niente, perché sto bene di mio, perché sto bene, ma perché è un delitto stare bene. Cominciamo allora a dimezzare lo stipendio, ma lui dice che lo vuole dimezzare, lui lo vuole dimezzare, ma comincia a dimostrare qualcosa in maniera tale da non offendere tutta la gente che non ha un'idea, che ha portato tutto quanto il futuro di un piatto d'argento, e quindi di cominciare a fare la sua parte, sicuramente non cominciando con le critiche verso gli altri, perché noi italiani non siamo stupidi, quando ci stiamo cercando di abbandonare, noi lo conosciamo bene. Bene, grazie, quindi, grazie, prego, grazie Benedetta, 800 24 00 24, chiamava da Verona, anche se sentiva poco, ma insomma con un accento credo siciliano, prima di un ospite che fra poco ti presento, caro David, qui alla Zanzara entra Riccardo da Roma. Riccardo, speriamo non sia il possessore della maligna. Allora, velocissimo, perché su Padre Amort mi ha anticipato l'ascoltatore, cioè, qual è il problema? Diciamo che stavolta cercavate il titolone, perché avete beccato il titolone da Padre Amor. No, il titolone, il soggetto da sbertucciare, mettiamola così, no? Ma non è da sbertucciare. Quindi, abbiamo chiesto a Padre Amor se era vera o no quella frase che aveva detto su Monti, okay, e poi abbiamo chiesto di Crocetta, punto. E quindi, appunto, su Crocetta volevo un attimo velocissimamente. Non è che ha detto la novità per un sacerdote cattolico, cioè, nel senso, voi cercate il soggetto, la caricatura, la sagoma, eccetera. Però analizziamo quello che ha detto. Ha detto un omosessuale è un peccatore. Novità, grande novità, il cattolico scuola. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che è una grande novità? Lo dice lei? No, novità per un cattolico. Per ma no, ma ha detto una cosa interessante, cioè c'è la zampa del maligno. Ora, io sul maligno, francamente... Parenzo, posso? Sì, sì. Prego. Ha detto c'è la zampa del maligno, qualsiasi uomo che sta in peccato. Io ripeto, parlo da una persona abbastanza profana, ma penso che sia l'ABC del catechismo cattolico, quindi non capisco. Stavolta, secondo me, non avete sortito quell'effetto di caricatura che vi aspettavate. Beh, insomma, più caricatura di Padre Amort quando parla. Basta che parla. Va bene. Quando le spalle grosse, per carità, sono il primo. Però stavolta non mi pare che, oddio, mamma mia, che ha detto. Grazie Riccardo, grazie, ciao, ciao. grazie Riccardo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. Io sono dalla parte di Grillo quando dice che se le regole sono quelle di non andare a un talk show, non ci devi andare. Ma le ha fatte lui! Se tu appartieni al Movimento 5 Stelle, sai che ci sono delle regole di non andare a talk show e non ci vai, altrimenti te ne vai a casa. Ma che cos'è? Ma non ho capito. Ma è così, ma le hai accettate quelle regole? Le hai accettate quelle regole? Le hai accettate? Intanto sono regole. Scusa, se te che Grillini è un movimento, i Grillini lì è un movimento che nasce nel web, orizzontale, non verticale. Ma lascia perdere queste stupidaggini. Io ti ho detto no. Se tu sei alla 7 e ti dicono, scusa Parenzo, tu oggi devi andare inviato a all'Ilva. No, io voglio andare a, da un'altra parte. No, ma scusa, no, noi abbiamo bisogno. No, ma come no? È questo l'esempio. Ti sei impossessato del maligno. Non mi pare una regola antidemocratica. Semplicemente la non partecipazione ai talk show è una cosa legittima, non è una roba. Ma lo decideranno chi? Eletti. Ma quali deputati eletti di cosa? Ma di che? Sicilia, ma di come? Ma di come? No? Di come? Quando? Perché? Che c'entrano i consiglieri siciliani? Qui stiamo dicendo che c'è un signore che si chiama Beppe Grillo che è non ci sono dubbi, no? È il grande capo, il grande guru del Movimento 5 Stelle. Che dice: io ai talk show non vi voglio vedere, è il vostro punto G, è un circo, non c'entrate niente con quella roba là. E tu ci vai? No, se tu non ci sei, bravissimo, fa via, se tu non dice, ci non stai, ma tu. Costo fa via due palle. Se tu non ci stai, se tu non ci stai, te ne vai a casa. Cioè, te no, ne ma vai qui non stiamo parlando di un elemento del programma, cioè vabbè, di che hai violato una roba. È con del noi il senatore Francesco Pancio Pardi. Buonasera. Bene. Buonasera. Come sta? Bene. Ha ragione Grillo quando dice il talk show ti uccide, digli di smettere, secondo lei? Ma Grillo è un soggetto, forse l'unico in Italia, che senza avere una televisione riesce a fare televisione, per cui forse dal suo punto di vista la cosa funziona. Beh, io questo dico, è esattamente come dice Francesco Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, senatore, il quale dice, insomma, se uno dice io faccio meglio in un altro modo, cioè non è che andare ai talk show sia necessario, sia obbligatorio. È giusto, Pardi? C'è il problema che forse lui, ora concedeteci un minimo di malignità, sì, forse lui può ottenere nel futuro l'emergere dell'efficacia di uno dei suoi, appunto, che magari potrebbe essere altrettanto bravo, appunto, a fare televisione, sì, solo che prima di riuscire a fare senza avercela dovrebbe passare qualche giorno da qualche parte in un programma. Però scusi, non credo che sia una questione di rivalità. No, infatti, credo che sia così. Cioè, me la dica tutta, credo, Pardi. Credo che sia una scelta un, sì, po' dirigista, per la verità. Vabbè, insomma, certo, una scelta, per evitare di mescolarsi col mondo degli altri. Esatto, bravo. Siccome loro traggono forza dall'essere diversi dagli altri, questo è un elemento che li rafforza. Beh, è così, Parenzo, non è che sia una cosa antidemocratica, cioè uno dice le mie regole sono queste qua, se non vuoi stare dentro queste regole puoi accomodarti in un altro partito, puoi andare a tutti i talk show che vuoi, inevitabilmente quella cosa lì, cioè partecipare a quello che lui chiama un teatrino, e in alcuni casi è un teatrino, per carità, legittima la democrazia e la televisione, cioè in alcuni casi è un boomerang, secondo lui è un boomerang. Vai a difendere, ma io no, una cosa dico, che non è vietata anche la radio? È vietata anche la radio, questo sarebbe interessante. Perché invece la radio è molto diversa dalla televisione. No, è vero, però per esempio Cancelleri è stato qui da noi, il candidato del Movimento 5 Stelle in Sicilia, dicendo: ma lei ha chiesto permesso a Grillo? E lui ha risposto: no, a me non me ne frega niente, io faccio quello che voglio, se mi invitano decido. Comunque, io. Se, diciamo, perlomeno mettiamo questo punto che è, sì, fondamentale. I candidati di Grillo del Movimento 5 Stelle possono andare alla radio, questa è una cosa molto positiva. Beh sì, questo è vero. La radio è molto più, molto diversa dalla televisione e secondo me per molti aspetti molto superiore. Beh, io sono d'accordo naturalmente con lei e c'è forse nella... ma credo, secondo me se Grillo ci pensa magari vieta ai suoi di andare anche alla radio. Anche la radio. Se ci riflette un attimo, secondo me mi sono dimenticato la radio, non andate nemmeno alla radio. Oddio, mi sono dimenticato la radio. Parenzo, che fai? No, dico, vieterà pure di andare al bagno, se va al bagno però soltanto dopo pranzo, invece dice no, perché? Dice no, perché la pipì si può fare solo dopo pranzo. Ma di che state parlando? Comunque capisco che Pardi non è che giustifica, spiega la ragione del dittatore, del giovane dittatore genovese. Insomma, ma non sta dicendo, non sta giustificando nulla, sta dicendo che capisce qual è la ratio di questo. Se Di Pietro dicesse a Pardi, ma no, l'Italia dei Valori... Pardi direbbe me ne fotto, immagino. Cosa direbbe persona, lei? Cosa direbbe lei? Ah, me ne fotto nel modo più assoluto. Senta, ma l'ha visto in difficoltà dalla Gabanelli Di Pietro, sì, Beh, ecco, questo per esempio, voi mi richiamate su un tema che è la crudeltà della televisione, che è vera, è un fenomeno vero. Cioè, lui aveva molte più ragioni di quelle che sono emerse, perché... È vero, per esempio, che la questione delle case è completamente diversa. E ve lo posso spiegare sulla mia pelle. Io sono stato accusato, a un certo punto, un giorno Libero ha pubblicato un articolo in cui diceva che io ero proprietario di 8 terreni, con qualche casa sopra. Sì. No? Io ho lì per lì mi sono arrabbiato. Poi ho riflettuto su di quante particelle è composto l'unico terreno che posseggo, che in effetti è composto da 8 particelle. Questi furbacchioni sono andati a vedere la cosa catastale, hanno visto 8 particelle e invece di dire che sono proprietari di un terreno composto da 8 particelle, hanno detto 8 terreni. 8 terreni. Quei 56, quelle di Pietro, 56 sì. case di Di Pietro, non sono 56 case, sono, ora non so se sono Vabbè. Particelle o quel che è. Le case sue sono di sicuro non più di 7-8 e bisogna tener conto che c'ha 2 famiglie, una moglie che era un'avvocatessa prima di È un po' fissato con le case però, sì, diciamo, classica cosa italiana di essere fissato con le case. La cosa è meno eclatante sì. di come... Però balbettava sulla moglie. No, l'altra cosa me lo faccio sì. dire. Il paragone con Prodi, sì. visto così... Sull'eredità Broletti, sì. Poteva apparire impietoso, perché Beh, è impietoso. Prodi dice i soldi che ho ricevuto non me li ha dati certo per la mia bella faccia. E Di Pietro dice, ma è quella stata una donazione personale. Guardate che sono state accostate due cose che sono in due contesti completamente diversi. Però lei che si mette... Un momento, scusi, me lo faccia dire. Lei che specifica questa cosa... Prodi a quel tempo era già... diciamo camminava per era già un politico a tutto sì. titolo, faceva campagna elettorale. Beh, Di Pietro quasi benissimo. Di Pietro quasi. Di Pietro nel 95 non c'era manco il partito e non era nemmeno cioè è legittimo che lui abbia utilizzato quei soldi dell'eredità per comprarsi un appartamento? No, secondo poi, lei tra l'altro credo che li abbia poi utilizzati dopo no per comprarsi un appartamento in parte per la cosa per l'attività del partito, quindi c'è un po' di confusione. Ecco, su questo fatto. C'è confusione. Ma secondo lei che immagine, al di là dei torti, delle ragioni, c'è sulla vicenda della moglie, per esempio, una cosa, la balbettava, la mia moglie non è mia moglie, è una persona, quella è una cosa un po' imbarazzante. Quello, tra l'altro anche quello è stato un errore comunicativo, perché lui si capiva, io lo so che cosa voleva dire, lui voleva dire che sua moglie è una persona autonoma, intelligente, capace Ho capito, però, di decidere, di pensare quella eccetera. Specie di associazione c'era pure la moglie questa è, fino ecco, a... ecco se mi chiede questo, su questo io avevo già svolto una critica a questo proposito cioè sbagliò a mettere la moglie in questa associazione. Era meglio se la moglie non veniva associata dentro questa triade di controllo delle finanze, su quello non c'è dubbio. Ed ha sbagliato pure a candidare il figlio alle poi, provinciali e poi alle regionali. Quello gliel'avevo detto tanto tempo fa e non vorrei rivangare. Cioè c'è stata una gestione un po' personalistica, questo è evidente da parte di Pietro del partito, no? Fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Beh, anche sì, adesso un po'. I partiti, diciamo, lo Stato nascente ci hanno un sacco di problemi di questo tipo. Ora ma la guida due del partito sì, sì. Veltri e Di Domenico, che hanno fatto una parte sì. molto efficace nella trasmissione, sono stati condannati tutti e due a pagare il risarcimento a Di Pietro per quello che hanno detto. Quindi, sì. La guida del partito deve cambiare, come dice De Magistris, secondo lei, Pardi, la guida dell'Italia dei Valori? Secondo me, allo stato attuale delle cose, no. La via giusta è che la direzione attuale del partito, che non è composta solo da Di Pietro, ma anche da un Ma deve cambiare la guida? Persone, adesso devo dare la linea? Si prenda in carico il compito di fare un'operazione di rivolgimento completo. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco. Per rilassarsi a Ballarò. Ma a proposito, scusi, Sarsi, ma cosa ci fa lei in televisione? Lo sa che se la vede Casaleggio, le mette la stagnola in testa, le fa fare il pannello fotovoltaico. Cosa fa? Sarsi, si faccia vedere, perché lei è una novità assoluta a Ballarò, È la comparsa di una nuova specie. Speriamo che non faccia la fine della nuova lucertola australiana. Non so se l'ha vista, hanno scoperto la lucertola in questi giorni. Appena l'hanno scoperta, è già a rischio di estinzione. Mato zanzara, io sono il tutorero con la pantofolita e prendo il temato, assi puedo riposar. Questa è la zanzara e questo era Crozza, che prevedeva quello che sarebbe successo, cioè l'incazzatura di Grillo per la presenza in televisione di un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Federica Salsi, a Ballarò. Allora, io voglio capire una cosa, Francesco Pancio Pardi, Italia dei Valori, senatore, ha fatto una figuraccia Di Pietro dalla Gabbanelli, sì o no? Sì, perché quello si è già detto, che l'ha non fatta. È andato bene, che non è stato efficace e che Su invece non volevo fare il democristiano sulla sua domanda politica. Sì, qual era? E cioè se Di Pietro deve essere affiancato, sì, se sì. Io ho proposto fino dal primo congresso di Roma durante questa legislatura, ormai sono passati 2 anni e mezzo, forse 3, che ci doveva essere un organo dirigente più efficace di quello dell'ufficio di presidenza. Ora non posso scendere, infatti. Però la gente di queste cose se ne fotte. L'ufficio di presidenza è una specie di segreteria, diciamo, di... Ci vuole un organo dirigente più plurale, non enorme, perché non deve essere una cosa come il comitato. Cioè lei vuole un po' commissariare Di Pietro. Quindi ci deve essere una gestione più collegiale. Questo mi sembra... Sai che queste cose in politica contano poco. Gestione più collegiale non significa niente. Cioè finora è stato un partito personale, sì o no? Sì. Contano e com'è. Già non è più un partito personale. Perché ci sono dei soggetti che voi non li conoscete perché non appaiono. Scusi, anche quelli. Secondo lei De Magistris ha le carte in regola? Non appaiono in televisione. Ha le carte in regola De Magistris? No, su De Magistris devo dire un'altra cosa. De Magistris può svolgere un ruolo politico egregio, però vorrei fare una chiarezza. E questo vale sia per De Magistris che per Renzi. Non è una cosa contro. Deve pensare a fare il sindaco. È una cosa per cui i soggetti, cittadini di rilievo, che hanno voluto a tutti i costi fare il sindaco di una grande città, devono concludere il mandato, non possono utilizzare il ruolo che hanno prima ancora di aver dimostrato di saper governare le città come un trampolino di lancio per un ruolo di rilievo superiore. Cioè è sbagliato fare questa lista arancione dei sindaci che vuole fare? Grazie al cielo De Magistris non si pone questo obiettivo. Beh, come no? Vuole fare la lista dei sindaci? No, diventare presidente del Consiglio. No, però vuole fare la lista Il caso clamoroso è Renzi, che non ha ancora fatto nulla di veramente significativo da sindaco e si permette di presentarsi come un possibile presidente del Consiglio. Vabbè, quello saranno gli italiani a decidere, però il problema è un altro. De Magistris vuole fare la famosa lista arancione dei sindaci e presentarsi alle politiche, magari non lui, ma comunque promuove liste nazionali. Già, per esempio, è diverso. Se lui fa la lista... Ma è dell'Italia dei Valori o no ancora? Come? È ancora dell'Italia dei Valori? Sì, penso di sì. Non sono informatissimo. Beh, non è informatissimo, questo è importante. Sicuramente è ancora dell'Italia dei Valori perché c'è ancora non so in che modo sia... Che c'ha? Incasellato nella struttura, ma insomma è sicuramente l'Italia dei Valori, è stato eletto con l'Italia dei Valori. Se uno vuole fare una lista è uno dei vostri. Se fa una lista, io francamente devo dire questo, che lo stato attuale dei partiti è così in generale carente, tutti. Nostro, anche l'Italia dei Valori, certo. Che se alle elezioni il centro-sinistra con i suoi partiti non riesce a presentare anche un aiuto significativo della società da civile. Parte della società civile, secondo me non ci Ma non sarebbe il caso di sciogliere anche l'Italia dei Valori e fare un'altra cosa? Che lei che dice? Boh, allo stato attuale delle cose non mi sembra il momento opportuno, perché per sciogliersi bisogna essere... Troppi scandali, è vero che troppi scandali, sì o no, anche a livello locale? Di Pietro ha sbagliato a scegliere le persone spesso. A livello locale io le posso dire una cosa con estrema sincerità. Sì. Il caso laziale è un caso da manuale, perché i consiglieri di DV nel Lazio hanno fatto un errore politico di tipo proprio marchiano. Sì. Cioè hanno fatto una cosa che è nettamente contro la linea del partito, perché il partito lotta e fa raccolta di firme per un referendum per la riduzione dei costi della politica, addirittura e quelli prendono i soldi come gli altri, addirittura per l'abolizione del finanziamento pubblico. Guardi che io per esempio ho i dubbi sulla abolizione del finanziamento e però pubblico. Prendono i soldi come gli altri, dice però lei. Raccolgono queste firme, il partito raccoglie queste firme e invece il gruppo consigliare laziale vota a favore dell'aumento della dotazione finanziaria dei gruppi consigliari. Scusi, tra l'altro noti bene che l'ha fatto anche il PD. Certo, l'hanno fatto tutti. Però, scusi un attimo, quello è un errore marchiano. Scusi un attimo, là non c'è un altro errore da parte di Pietro Parenzo, cioè quello di aver scelto il proprio avvocato. Ma questo Pardi. La questione Maruccio, la questione il caso Maruccio è un'altra cosa su cui ho detto una cosa molto precisa, cioè? Voi non lo sapete, ma io di interlocuzione con la direzione del partito. Gli ho detto chiaro e tondo che se uno fa il legale del partito non dovrebbe nemmeno essere eletto nel partito, se è eletto nel partito non può fare il dirigente e se fa il dirigente non può fare il tesoriere Maruccio faceva tutte e tre le cose, faceva il legale, il dirigente e il tesoriere, quindi lì c'è un errore marchiano. Ma di Di Pietro però, è un errore marchiano di Di Pietro. Forse di tutto il partito. Beh, no, come di tutto il partito, non è che l'ha scelto tutto il partito, su, parli, l'ha scelto Di Pietro. Lui è stato eletto però, c'è stata un'assemblea, no, guardi, le scelte in questo caso non sono mica eterodirette che uno da no a vabbè, ho capito, su, no, purtroppo è peggio, secondo me è peggio. Ma che peggio? Ma è stato scelto da Di Pietro, il suo avvocato, in alcuni procedimenti, su. Ha prevalso in un'assemblea, sì, in un vabbè, consiglio, capito, ma di un'assemblea regionale dove l'hanno votato. Secondo me hanno sbagliato tutti. Scusi, a ma votarlo. La non linea dovevano votare. Mi dica la verità. Adesso si saranno accolti di aver fatto un errore plateale. Gente come Maruccio fa malissimo al partito comunque, no? Non male, malissimo. E Barbato invece? No, Barbato è un fantasioso, un po' casinista. Insomma, non, è un po' odiato Barbato. Lasciamo Barbato alle sue invenzioni. Alla sua fantasia. Antonio da Roma, 800240024, parli, resti lì. Antonio. Buonasera, dottor dica, Parenzo. Dica. Senta, no, io volevo sono cruciani, dire veramente... comunque è uguale. Sì. E volevo dire che i partiti politici non sono delle caserme dove i capi partito e i segretari dei partiti politici possono obbligare i loro associati a non partecipare alle trasmissioni televisive, anzi partecipare a queste trasmissioni è un'occasione per conoscere il programma, per conoscere le idee appunto del movimento politico. Quindi io credo che quella consigliera comunale ieri sera abbia fatto bene a partecipare a Ballarò. E vabbè, secondo lei ha fatto bene, secondo il capo del suo partito? No, e secondo me ha ragione Grillo, punto e basta. Cioè... Sì, abbiamo opinioni differenti, però le volevo dire, i partiti politici sono liberi associazioni... Ma quello non è un partito politico qualunque, non è un partito politico come gli altri, è una ma specie di... Un è una specie... di regole etiche. Ma qua che c'entrano le regole etiche? Qui si tratta semplicemente di scelte. Secondo Grillo è più efficace per prendere voti, per distinguersi dagli altri, non partecipare ai talk show, e dunque dice ai suoi non ci andate perché altrimenti sembrate come gli altri. È una linea politica, è una strategia, potrà piacere, non piacere, potranno dire che è un dittatore, ma sarà una stupidaggine, ma è una linea politica. Grande prepotenza, non è una linea ma politica. Ma che c'entra, non c'entra la prepotenza, nulla. Mamma mia, queste categorie assurde. Guarda, no? Gad Lerner ha scritto poco fa un tweet, sì, avanti, secondo sì. me sagacissimo. Benissimo. E che chiude la questione, chiude, Gad, sicuro la chiude. L'amico Gad sì. scrive, gli attivisti del Movimento 5 Stelle si rassegnino, sì. l'orgasmo di andare in TV vuole provarlo solo lui, Beppe Grillo. Veramente non ci va nemmeno lui, come altri. Dice Pardi, si è fatto che la televisione da solo. Che prepotenza. Invece no, perché lui, siccome sa che ogni volta che lui fa una delle sue bischerate, noi giornalisti giustamente ma sarà una strategia o no? Sarà una strategia politica, certo, sì o no? Su questo e allora? Non si può dettare la linea, non è una questione tipo inceneritore sì, inceneritore no. Tant'è che il candidato alla regione Sicilia, Cancellieri, che è una persona seria, lui dice ma chi se ne frega, faccio quello che mi pare, mi vuole cacciare, ma dove mi caccia che sono? No, veramente questo non l'ha detto, lo stai dicendo tu adesso, no, non l'ha mai ieri detto. Diceva io vado se voglio vengo alla radio, faccio quello che mi pare. Ma vabbè, Mauro da Milano, un attimo, 800240024, Mauro. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica, dica, dica. Senta, io le devo tirare le orecchie. Sì, sono perché? Un 71enne ascoltatore ancora dei tempi di... Allora? Allora? Credo di permetterlo. Lei stasera a quel signorino che ha detto che non ha bisogno di quattrini perché lui sta bene, sì. le è sfuggito di dovergli dire bene, mi dica a chi li devolviamo quei soldi. Ma perché uno li deve devolvere quei soldi? Perché li deve devolvere se non gli servono. Ho capito, non gli servono nel senso che non gliene frega niente, non gli servono. Appunto, e allora diamoli a qualcuno che ne ha bisogno. Li vuole dimezzare, dice, vuole fare una proposta di legge per dimezzarli. Se ne fatta sfuggire. Vabbè, adesso può dare. Siete bravissimi. Ciao, grazie, saluti. Ciao, ciao. Allora, Pardi, io voglio capire una cosa. Dopo tanto tempo non è il caso di cambiare, cioè, come tutti i partiti, a un certo punto il leader cambia, non è che siete come... Cioè, lei è uno di quelli che si è opposto a partito personale, cioè cambiare la guida. Dopo Di Pietro, chi può venire? Ecco, quello proprio non glielo so dire. Perché non c'è un'alternativa? Non glielo so dire. No, ci vorrei... no noi stiamo aprendo una cosa, una situazione diversa. Sì, ma ci vorrebbe un cambio allora? Come? Ci vorrebbe un cambio a breve? Cioè, dopo le elezioni, diciamo la verità, dopo le elezioni... dopo le elezioni probabilmente ci sarà un cambio. Ci sarà un cambio, ma lei chi vede come? Anche per le elezioni ci potrebbero essere delle sorprese. Cioè, in che senso per le elezioni? Per non farvi mancare l'effetto, non ve le posso dire. No, questo è interessante. In che senso ci potrebbero essere delle sorprese? Scusi? No, ci possono essere delle sorprese, per esempio, su certe scelte. D'altra parte, l'effetto sorpresa, se ve lo dico su, a parte che non lo so, ma se lo sapessi, non cioè, ve lo direi. Di Pietro potrebbe non presentarsi alla Camera, per esempio? Ci potrebbero essere delle sorprese. Cioè, potrebbe non presentarsi alle elezioni? Voi potreste dire a un certo punto, qui si vedono cose nuove. Comunque la cosa fondamentale... No, ma la cosa nuova potrebbe essere che Di Pietro non si presenta alle elezioni? Ci sono delle cose che noi stiamo già facendo. Abbiamo preso delle decisioni oggi. Sì, vabbè, la direzione, la cosa. Cambiano, per esempio, non è più possibile cumulare cariche e duplicare cariche di nessun tipo. Sono tagliate le possibilità di avere dei conflitti di interesse tra ruoli, funzioni, eccetera. Vabbè. I consigli, i gruppi consigliari regionali devono mettere in online i loro bilanci e chiarire chi è nel modo va più bene. Trasparente. E i figli e gli altri parenti? Risorse. I figli e gli altri parenti? Insomma, diciamo come? E i figli e gli altri parenti? C'è il cognato anche, il signor Cimadoro. Il tema del familismo, lei mi chiama a nozze perché lo so, ma al congresso di Roma c'è una mozione, tra l'altro. Mi dica la verità, il cognato si deve ripresentare o no alle elezioni? Il cognato di Pietro? No. Secondo me no. E il figlio deve, finita questa... Il figlio oramai è stato eletto, però io ero contrario al fatto che si presentasse alle elezioni, perché penso che... noi dobbiamo essere diversi dagli altri, per cui per noi devono funzionare delle regole più severe che per gli altri. È vero che era un suo diritto costituzionale presentarsi alle elezioni, per carità, ci mancherebbe altro. Crocetta, omosessuale, è diventato presidente della Sicilia, lei che dice? Anche lui c'ha qualche influenza del maligno, secondo lei? Beh, guardi, se uno è omosessuale è uno che vive nel peccato. È d'accordo, ma il peccato, c'è sempre la rampa del maligno. Quando c'è un peccato c'è sempre la tentazione di Satana. Certo, però ma come tentazione, non c'è non dubbio, come presenza straordinaria. Ma secondo lei Crocetta ha bisogno di un intervento da parte di bisogno di pregare. Di pregare. Ha bisogno di Vangelo. Ha bisogno, ti l'ho dato Gesù Cristo, sempre. Una spina nel fianco fastidiosa. Padre Amort alla Zanzara, l'esorcista. Alcuni dicono l'esorciccio, ma è semplicemente per denigrarlo. 800 24 00 24, la meravigliosa performance di Marilyn Fusco, consigliere regionale dell'Italia dei Valori alla Zanzara ieri sera, quando era l'altro ieri? Ieri sera Marilyn Fusco, Italia dei Valori. E le avevamo chiesto, no, Parenzo, semplicemente di commentare quello che disse su Berlusconi nel 2009, no? Che era perseguitato dalla giustizia. Bastava dire no, non l'ho detto, oppure sì, l'ho detto e non me ne pento. E invece? Senta, lei una volta disse che Berlusconi era vittima di una persecuzione. Lo sapevo che mi tirava conferma? Fuori questa cosa qua. Conferma? Io questa non confermo cosa. Proprio nulla e non voglio neanche parlare di questo. Ah, non vuole parlare di questo. Ho detto che non preferisco non parlare. Che lei pronunciò quelle parole. Non vuole tornare su questa vicenda. Una cosa della quale mi sembra che se ne sia parlato anche. Berlusconi è vittima di una persecuzione, voglio, sì o no? Non voglio assolutamente parlare. Ma lei può dire no, non è vittima di persecuzione. Ma io posso anche rifiutarmi di rispondere. Marilyn Fusco, Italia dei Valori, come commentiamo, Pardi? Beh, stendiamo un velo. Pietoso? Pietoso. Pietoso. Va bene, con noi Francesco Pancio Pardi, senatore dell'Italia dei Valori. Parenzo, che dici? No, dico, Pardi, diciamola tutta a questo punto. Qui c'è bisogno di un bel po' di restyling all'Italia dei Valori. Ci bisogna fare proprio un intervento, no? Abbastanza di restyling però, strutturale. Il problema... siamo, diciamo, per non cadere nella dimensione vernacolare. Sì. Il problema della Liguria anche non è il fatto che Marilyn Fusco... Sì. Non vuole parlare di quella cosa che ha detto tanto tempo fa. Il problema è che si è dimessa, diciamo, da vicepresidente, dal ruolo di vice e assessore di regione, però è rientrata come capogruppo. E certo, è qualcosa che non funziona. Sì, ma soprattutto perché queste sono cose che dovranno essere risolte. Cioè, doveva dimettersi anche da consigliere regionale, secondo lei? Boh, Ecco, su quello non saprei, perché quella è un'altra questione. Però scusi, perché Maruccio si è dimesso e lei no? Ah, vabbè, se la mettiamo così, sì, però un momento, c'è una cosa di diversa. E qual è diverso? Quelle sono due reati gravi entrambi comunque. Indagati. Entrambi indagati per due reati. Qual è la rilevanza? E qui non ci posso entrare, però. No, ho capito, però se uno è perpeculato, uno è perpeculato, d'accordo, sono entrambi indagati. Era una questione di inopportunità, diciamo, la signora Fusco era vicepresidente, assessore all'urbanistica, sì, ed è indagata per truffa e abuso d'ufficio, truffa e abuso d'ufficio. Sì. Proprio per quello non doveva rientrare nella commissione urbanistica. C'è rientrata, adesso mi vengono a dire che invece non c'è più, è uscita, benissimo. Era molto criticabile il fatto che dopo essersi dimessa da vicepresidente della regione rientrasse come capogruppo, perché ed è rimasta capogruppo, stride, no? Stride in modo vistoso. Però diciamo, questi sono i tipici casi. Scusi, però perché se Di Pietro ha costretto la dovrebbe impedire che nascessero, basterebbe fin dall'inizio stabilire, come stiamo facendo adesso, una netta distinzione delle cariche, delle funzioni e la tagliatura alla radice della possibilità di conflitti di interesse. Vabbè, in questo caso ci sono delle cose imprevedibili, come fai a capire? Cioè, non è che si può immaginare. Quando la cosa si manifesta, si manifesta. Scusi, però le voglio chiedere una cosa. Alla fine, dato il risultato anche dalla Sicilia, poi concludiamo. Ma questa linea politica di Di Pietro, che è quella di attacco a Monti, anche di conflitto col Partito Democratico, col Presidente della Repubblica, senza scendere nei particolari perché dopo abbiamo gli ascoltatori. Però, insomma, alla fine è stato un errore, sì o no? Secondo me si poteva, diciamo, se si doveva polemizzare, e si poteva polemizzare con il governo Monti, si poteva enfatizzare di più, dare più peso alla questione. E questo è stato fatto però nei confronti del governo Monti. Ho capito, ma che errore ha commesso Di Pietro? L'iniquità della manovra, cioè, no, voglio parlare della questione. No, ma questo ho capito, ma l'errore di Di Pietro, c'è stato un errore di strategia politica? Col PD, arrivo a dirlo. Ecco. Diciamo, nei confronti del governo Monti un'opposizione ci vuole. Sì, poi? È d'accordo. L'iniquità delle sue manovre a noi è assolutamente evidente, per cui secondo me, anche se all'inizio abbiamo votato la fiducia, io mi sono adoperato anch'io perché all'inizio si votasse la fiducia. Sì, e vabbè, quello è giustificato. No, era semplice. Ma che errore c'è stato col PD? Pardi. Faccio dire un secondo, non mi interrompa. No, è che su Monti è chiaro. Non si poteva trattare Monti come avevamo trattato Berlusconi, d'accordo? Okay. Quindi secondo me questa era la linea da adottare. Sì, e anche nel proseguo del tempo, benché il governo Monti fosse soggetto di una politica iniqua, bisognava sempre mantenere una distinzione tra quello che era stato il governo Berlusconi prima. E invece avete trattato Monti come Berlusconi. Monti oggi è costretto a rimediare i danni di Berlusconi. Dunque avete trattato Monti come Berlusconi, questo è l'errore. No, è l'errore. Però per esempio quando gli è stato rimproverato l'eccesso di delegazione di legislazione d'urgenza con i decreti legge, per esempio, quello secondo me era una cosa un po' sbagliata perché mentre Berlusconi faceva decreti legge per risolvere i suoi fattacci, il governo Monti è costretto a fare decreti. Avete criticato troppo Monti, e invece sul PD che errore è stato commesso? Però nei confronti del PD, secondo me, invece di prendersela, di enfatizzare la polemica col Quirinale, era molto più giusto e anche più misurato insistere sulla polemica nei confronti del PD dal punto di vista delle differenze programmatiche e della loro tolleranza nei confronti, per esempio, della politica iniqua. Io faccio l'esempio. Avete sbagliato col PD, dai. Il governo sta distruggendo l'università. Sì, però voi siete siete fuori dal centrosinistra ormai. Su questo, come? Se siete fuori dal centrosinistra, la responsabilità di Pietro ci sarà o no? Non c'è mica un Dio che dall'alto stabilisce. Ho capito, ma siete ormai fuori, quelli non vi vogliono più. Ma non vi vogliono più. Noi possiamo fare delle scelte e adottare delle linee che ci mettono perfettamente in carreggiata. Noi non siamo mai usciti. Ma siete fuori dalla coalizione? Siete fuori dalla coalizione, Pardi? Noi siamo nel centro-sinistra a pieno titolo. Ma siete fuori dalla coalizione ormai? Cioè siete fuori, non vi vogliono più, hanno scelto altri. Quello bisogna vedere. Vabbè, bisognerà vedere. La ringrazio molto, buona serata. Grazie. Giovanni da Treviso, buonasera. Sì, Giovanni, buonasera, dica. Buonasera. Su, tiriamoci su. Volevo darle ragione, dottor Cruciani, su quello che ha detto sulla strategia di Beppe Grillo. Sì. Perché secondo me, se gli esponenti del Movimento 5 Stelle sono così miopi da non aver ancora capito che insomma quello che c'è dietro è un'idea di leadership, di differenziazione, se gli esponenti non sono all'altezza di quello che è il, come dire, la strategia di Grillo, beh, allora si meritano di essere cazziati quando sbagliano, perché insomma andare ai talk show vuol dire rendersi simili per quello che è, diciamo, bravo, la percezione della gente. Io non sono Grillino, dunque non ho questa, non ho questa idea così straordinaria di Grillo, però è evidente che finora la sua strategia è stata efficace. Non bisogna mischiarsi agli anni, altri. Anni di strategia vengono compromessi magari da ma non bisogna mischiarsi agli altri. Se tu vai a fare il bello là con le foto e tutto, a parlare tre minuti, a ribattere, a fare il teatrino, che è legittimo, per carità, della politica, il teatrino della politica nei talk show, sei come gli altri. Dunque, ma Grillo, non lo decide lui, ridellatevi. Oddio, ma come no? Ma chi che parli? Amici, chiamiamo questa, eletti, chiamiamo del Movimento 5 Stelle, ribellatevi al tiranno, siate indipendenti e persone con una propria testa in grado di ragionare. Come Favia, ribellatevi al tiranno. Ma Favia ha detto che fa benissimo Grillo, che dici? Cioè, no, Favia come comunque no? Ha detto che ha avuto una strategia fantastica in Sicilia, che dici? Ma ha ingaggiato una battaglia indipendente in cui non ha più parlato da quel momento, non ha proferito parola. Dopo i primi giorni non ha più proferito parola. Dai, su, di che parliamo, dai. Adesso sta acquattato, tranquillo, dai. Beh, chi l'ha detto? Ma sì, è così. Vediamo un po' se sta Salsi risponde. Che è Padre Amort ancora? No, magari. No, bisogna dire una cosa. Padre Amort alle 19.30 era ancora nel suo ufficio, capito? Beh, certo. Che senza... non è un funzionario pubblico che alle 19 stacca. Beh, no. Quello è lì. Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica. Non risponde. Facciamo una prova, però. Proviamo a richiamare alle 8.30 Padre Amort. Maurizio dalla provincia di Latina. Perché, no, se... dai, Padre Amort, no. Se fosse ancora lì, importantissimo, vuol dire che lui lavora 24 hours. Cioè... Ho capito, bisogna passare per il centralino, Padre Amort. E magari c'è ancora alle 8.30. Maurizio dalla provincia di Latina. È su. Un grande lavoratore. Maurizio, dica. Salve, grazie per avermi chiamato. No, grazie a lei di aver chiamato. Fare due considerazioni in merito alla elezione del figlio di Lombardo alla regione, mi sente? Sì, facciamone una, su. E veloce. Ma prima, io faccio l'imprenditore, se avrei un'accusa come quella di Lombardo, diciamo, terzo grado di parentela, i miei parenti non potrebbero fare più impresa. Non capisco perché il figlio di Lombardo, diciamo, si può candidare e può essere eletto. Ma chi ha detto che non possono fare impresa? Ma chi l'ha detto che non possono fare impresa? Scusi. Chi ha detto? Lo dico io perché non gli rilasciano antimafia, cioè se c'è un'accusa per associazione esterna di stampo mafioso, non gli rilasciano antimafia la prefettura, quindi l'impresa non la può fare più in Italia. Allora? E questo si informi e si legge la legge italiana. No, ma ho capito, questo cosa vuol dire? Lei dice che siccome il padre... Vuol dire che lui non si può candidare, punto, il figlio di Lombardo non si può proprio candidare perché il papà è un mafioso. No, quindi lui non stia calmo, non può fare politica. Stia calmo, che la non ci sono condanne definitive, stia calmo, seconda, stia calmo, Maurizio. Il terrorismo da 3 anni, diciamo, lì sulla regione, tra consulenze esterne, ha fatto mangiare un sacco di famiglie, ha preso 9.000 voti, sono 9.000 famiglie che lui fa mangiare, quello se fosse stato Rino l'avrebbero votato lo stesso. Stia calmo, stia tranquillo. E noi diciamo che quello è un ventenne all'università, la storia non si finisce mai, ci troveremo i figli dei politici da 50 anni, sono sempre gli stessi. Grazie, grazie. Deve finire questa storia. Grazie, Elio da Catania, buonasera. Buonasera. Dica. Io mi volevo ricollegare al discorso sempre anch'io di Toti Lombardo, dicendo che secondo me Raffaele Lombardo, il padre, non ha fatto un bel regalo al figlio, perché nelle carte processuali è presente che il fratello di Raffaele Lombardo, parlamentare nazionale, sì, sì, è stato pure menato da determinati mafiosi. Quindi al di là del discorso è cioè, mafioso, lei dice, Lombardo lei meno. Dice, quindi, mette a repentaglio la... Mette a ricattabile, certo, un ragazzo di 24 anni che può essere bravo, da una parte avrà tutti quelli che lo attaccano perché è figlio di Lombardo, vabbè, dall'altra potrebbe essere effettivamente ricattabile. Secondo me da padre non ha fatto un bel regalo. Gaddo da Pisa, buonasera, signor Gaddo. Buonasera Cruciani, buonasera. Vada, vada, vada. Intanto hanno cancellato 35 province facendo anche un casino enorme con gente che protesta, una provincia contro l'altra, ma non era meglio cancellarle tutte? Per carità, è un passo avanti, i partiti in precedenza non erano riusciti a fare nulla da questo punto di vista, però basta enfasi con questa cosa, le cartine, ecco la nuova Italia, ma di che parliamo? 35 province cancellate, un governo rivoluzionario, un governo dei tecnici doveva cancellarle tutte, vabbè, mettere una riga così, basta, è finita, le province. Ah, perché tu non volevi la cancellazione delle province? No, una volta? Dico, la volevi o no la cancellazione delle province? Oh, mamma mia, riconoscere cose non sono bianco o nero, riconosciamo che è stato fatto un bel passo in avanti, riconosciamo che è stato fatto un grande passo in avanti, accorpamento, una nazionalizzazione, qualcosa, ma vabbè, cosa? Perché vabbè, Gaddo, allora? Gaddo. Niente, io sono intervenuto perché non sono d'accordo con lei in relazione alla denigrazione del sacerdote, perché... Ma nessuno l'ha denigrato! Sostanzialmente ha detto una cosa abbastanza, diciamo, criticabile, ma dal punto di vista della Chiesa è condivisibile, nel senso che gli omosessuali poi alla fine sono dei sodomiti. In quanto sodomiti, oltre a vivere nel peccato, compiono un atto di sodomizzazione che è contro natura e per cui è per forza indotto da un demone. Ma lei pensa anche lei pensa questa cosa? Ma io sinceramente no, nel senso che non lo condivido neanche io, però certamente non mi metto neanche nelle condizioni di, come dire, in qualche modo denigrare o criticare. Ma nessuno ha denigrato nulla, nessuno ha denigrato che pensa questo. Ma nessuno l'ha denigrato, signor Gaddo, nessuno denigra nulla. Mi fa soltanto un po' sorridere se ci signore... faceva ridere la questione del maligno, ma abbia se pazienza. Il signore esorcista sostiene, come ha sostenuto, che fare yoga è satanico e porta al male come Harry Potter, lei capisce, virgola, ma amico mio, questo è un altro argomento, io mi riferivo diciamo decisamente all'argomento dell'omosessualità, che so che voi sostenete molto. No, non è questione di sostenere, Gaddo, mi sente o no? Vabbè. Sia per la Chiesa Cattolica che per la Chiesa Ebraica, i sodomiti sono assolutamente delle persone destinate alla profondità degli inferi, insomma. Vabbè, benissimo, lasciamo perdere la profondità degli inferi, che volevi dire? Anche gli inferi adesso, no, ma dico a parte gli inferi, che vabbè, gli inferi, anche gli inferi adesso, però inferi a parte, non mi faccia arrabbiare, discutevo semplicemente questa roba di Satana, quando lui dice Satana è sempre nascosto e la cosa che desidera di più è che non si creda alla sua esistenza, e ripeto che fare yoga è satanico e vuole pure togliermi Harry Potter, mi permetta, virgola, amico mio, virgola, di che cosa stiamo parlando? Il signor Potter, Harry il maghetto con gli occhiali, Harry Potter, non ha fatto male a nessuno, non è il diavolo il signor Potter, amico mio. E nemmeno Crozza in realtà, perché lui dice anche Maurizio Crozza, hai capito? No, ma va dei matti, perché voglio dire, poi io credo a tutto, anzi ho rispetto anche di chi crede, ma non penso che un credente possa credere che fare yoga è satanico. E se mi permette sorrido, posso almeno sorridere, perché fare yoga, le meditazioni, sulle mani, dov'è Satana? Io ho mai fatto yoga, forse dovrei farlo, con le gambe incrociate a mangiare le carote, dov'è Satana? Dov'è? Io l'ho dato Gesù Cristo. È con noi Lando Buzzanca, buonasera. Buonasera. Beh, grande. Ho sentito parte del discorso. La introduciamo in questo modo però, Buzzanca, un attimo. Perché secondo te sono intelligente io? Come no? E ti sei un artista. E poi ti sei anche un bell'uomo. Mi ricordo la prima volta che ti ho conosciuto. L'impressione che ti mega fatto. Te lo ricordi, Nicolò? Il canto del merlo maschio nel folto del bosco, il suo richiamo d'amore. Il mitico merlo maschio, Buzzanca. Ma cosa avete recuperato, ragazzi? Siete dei pazzi. Quanti anni ha lei, Buzzanca? Bravi, bravi. Quanti anni ha? Chi? Io? Lei, sì, quanti anni ha? Io ho 77 anni. Ma se riporta la grandissima. No, vado a Lourdes ogni 6 mesi. Ma ogni 6 mesi a Lourdes? E mi fa la grazia la Madonna. Appena mi vede mi fa, ah, vedi chi c'è, Buzzanca. E mi dà una mano. Ma vogliamo parlare di uno dei più grandi film italiani, quale Divorzio all'italiana del grande Germi? Vogliamo parlare dei mostri? Ho debuttato con quel film io. Ha debuttato. Il mio debutto è stato appunto quello. O dei mostri, o dell'ultimo film che ha fatto con Faenza, i Viceré. Cioè stiamo parlando con un uomo, certo, che ha fatto la storia del cinema. Senta, ma in c'è Sicilia... da Padre Amort a Buzzanca, ci vuole, no, rispetto. Ma che c'entra Padre Amort adesso? No, quello... Padre Amort è l'esorcista della chiesa, ha detto anche l'esorciccio. L'esorciccio di cosa? Ciccio di Franchi e Grazia, sì, sì. Scusi un attimo, Buzzanca, ma lei vota in Sicilia o da un'altra parte? Come? No, io vivo a Roma. Dunque lei non vota, non ha votato in Sicilia? No, non ho votato, mi dispiace perché Musumeci l'avrei votato, ma tanto l'ho incontrato, siccome siamo abbastanza amici, non è che ci incontriamo spesso, però io... una grande, lui è un mio fan, io sono felice di averlo conosciuto perché è una grossissima persona, intelligente, leale, onesta. E poi ce l'ha, poi insomma era Missino. Ha un impatto con la gente incredibile. Ma secondo me, se i siciliani avessero votato tutti, lui avrebbe vinto al 40%. Adesso che vuol dire questo, Buzzanca? Non si può dire. Vabbè, vuol dire che... Gli assenti hanno sempre torto, No, certo, è vero. Purtroppo invece no, ma speriamo che questo signor Crocetta, quello che dice, le realizza. Speriamo. Ma il fatto che è omosessuale a lei, insomma, non gliene frega niente. No, non mi un po' ha smentito tutte le dicerie sulla Sicilia che ormai erano già finite da tempo, il fatto dell'elezione di un presidente omosessuale. Ma sa, a seconda come si comporterà, a seconda di quello che fa, l'importante è il... Non è il sesso, l'importante è il cervello. Non c'è dubbio. Il sesso fino a un certo punto, poi il cervello. Se hai un cervello vero, pieno di idee, pieno di volontà, soprattutto un cervello libero. Che importa? Delle idee, non le ideologie, ma le idee. Sì. E allora che importa, dice lei, che importa se uno è omosessuale, se ce n'ha due, ce n'ha tre? A me non importa niente. No, ma lei è mai stato con un uomo, no? No. E che ne so, hai visto mai? No, per carità. Lì nel mondo degli attori. Ma che mondo degli attori? No, io per me la natura è quella fertile. Invece l'altra che cosa è? Anche natura, purtroppo, è anche una natura. Perché purtroppo, dice lei? È purtroppo perché chi nasce in quella maniera si perde Dio, cioè la femmina, la donna. Ah, si perde la femmina. Non sai che cosa, dunque un omosessuale si perde, no? Quella, ma quella è l'amore, è quello. L'altro è soltanto un fatto di... Sì, ci può anche essere amore. Io ho fatto una fiction, me la sono inventata io, mio figlio. E che cos'è? Solo sesso, dice lei? L'ho inventato io. Cioè, tra gli omosessuali c'è solo sesso, dice lei, non c'è amore? Sì, c'è anche amore. No, c'è amore. Appunto. C'è amore, è quello sì, l'amore sì. Poi c'è invece anche il vizio, c'è anche la depravazione in quella cosa là. Anche tra gli eterosessuali, non è che non ci sia depravazione. Vabbè, quella che vuol dire, però... D'accordo. D'accordo. Lei lo sa bene. Però è una depravazione con la femmina, ti diverti. Perché la donna è Dio, non c'è niente da fare. Così, però, è così. Però quando due uomini o due donne si amano, l'amore fa parte della natura, si sono innamorati. Scusi, ma lei allora è favorevole al matrimonio tra omosessuali? No! Come no? No, perché a che serve? Come che serve? È una firma su un coso. La cosa che non mi piace è che pretendono di adottare. Perché? Che male c'è? Perché l'adozione, il bambino deve crescere fra due sessi diversi. Non può nascere. Perché non può stare bene un bambino anche con due uomini, con due donne? Ma avrà dei problemi comunque, perché non è quella la natura. La natura prolifica. Quando cresce, dice, ma chi è la mamma e chi è papà? Ma si abitua, uno si abitua, un bambino si abitua a tutto. Ma tutto si può comunque. Senta, ma è contento del fatto che, insomma, lei Berlusconi l'ha votato per un sacco di tempo, no? Sì, sì. Ma adesso che succede? Dice che non si presenta più, poi adesso... Sì, ma fa bene non presentarsi. Fa bene, fa bene. Sì, perché ce li avrà tutti addosso un'altra volta. Un'altra volta, Sì, un po' le donne addosso. Un po' le donne l'hanno fottuto, però, questa storia delle donne a casa sua. Ma sì, perché purtroppo lui è ancora uno che si diverte con le donne, le ama, beato lui. Ma pure lei, secondo me, che ha più o meno la stessa età di Berlusconi, lei, Sì, sì. No, io sono più vecchio di un anno. Più vecchio di un anno? Anche lei mi sa che, no? Anche lei, no, se la io sono normale. Sono normale, io sono vedovo da 2 anni. Sì, in questi 2 anni che ha combinato? Una donna che ho amato per 55 anni. In questi 2 anni che ha combinato? La femmina, un uomo ce l'ha sempre, un uomo, un maschio. Ce l'ha sempre in testa. Cosa, il maschio è un'altra ce l'ha sempre in testa, dice lei, no? Ce l'ha sempre in testa, sì. C'è niente da fare. E quante ne ha avute in questo periodo? In questi, no, scusi se sono indiscreto. Ma non mi può che chiedere queste cose, guarda. Ma come no? Ma una relazione, ha avuto un fidanzamento oppure un po' ballerino? No. Sono incontri e basta, da amiche che di vecchia data che si sono fatte vive, un paio, eh? E allora ogni tanto viene uno, una volta viene un'altra, c'è un bel via vai. Beh, non è male, cioè, bravo il merlo maschio, ma giovani hanno un'età ancora valida, per cui, cioè, che siamo 20 anni meno di lei? Anche più di 20 anni. Più di 20 anni? 30 anni meno di me. Che ne so, 30 anni meno di lei. 30 anni meno di me. Quarantenni. Quarantenni. Che uno emana questo fluido. Lei emana ancora questo fluido? Ma noi uomini, come le donne, emanano. Beh, insomma, evidentemente lei... ancora il fluido. Adesso prima finiva a 50 anni il fluido, a 55. Adesso arriverà a 80, spero. Spero, io... fra 3 anni sono 80. No, ma certo. Ma... Lei ancora ne approfitto del fluido. Dunque, lei, signor Buzzanca, senza l'utilizzo della mitica pillola aiutante, lei ancora... No, pratica. Senza pillola, no, per carità. Vabbè, sa, mica, non c'è niente carità, di male. No, poi mi mette paura la pillola. Anche qual è il segreto? Anche a me, devo dire, a me mette paura. Non mi fido delle cose. Come si fa senza pillola? Come si fa senza pillola? Il segreto. Come? Senza pillolina, come si fa? Niente, viene naturale. Come si fa? Non è che io faccio. Fino a quando posso, c'è il famoso cunnilingus, che è una cosa che esalta la femminilità, esalta e onora la donna. E allora e quello provoca da fare col cunnilingus. Invece perché poi se c'è il momento in cui viene anche l'altra situazione, ne approfitti. Non sempre arriva, però, ci vuole un non po' di tempo. Sempre, no, a 77 anni arriva con ritardo, sì. È come un treno che si ferma ogni tanto. E però il cunnilingus, il cunnilingus copre. Fanno benzina i treni. Una volta facevano carbone. Ricordo, dopo quello che ci ha detto prima Lando Buzzanca, la mitica performance dell'editore principale dell'Unità, 37% delle azioni, Mian, no? Te lo ricordi, Parenzo? Come dimenticarlo, signor Mian, in collegamento da Miami. Intervenuto qui alla Zanzara, che disse: io ho sposato la teoria del poliamore, cioè sto con più donne contemporaneamente, tutte consapevoli naturalmente. Queste due donne che stanno con lei, Buzzanca, che lei frequenta ogni tanto, sono consapevoli della cosa? Come sono loro che lo vogliono? No, ma sono consapevoli l'una dell'altra? Sì, non ufficialmente. Però no. Lo immaginano. Immaginano. Sì, perché c'è stato uno che mi ha detto: ma tu, dico, ma che io, ma sta buona. E basta. Comunque, sanno. No, bisogna parlare poco. Da stasera parlare poco e agire molto. Da stasera diciamo che dovrà forse rispondere a qualche messaggino. No, ma tanto lo sanno, che gliene frega della fedeltà a queste ragazze che frequentano il signor Buzzanca. Non è un fatto di fedeltà, è un fatto di gioia. Sono cose che uno scopre da bambino. Io avevo 12 anni quando ho avuto un una donna. 12 anni. È una prostituta, mi ci hanno portato amici miei più grandi. 12 anni. Avevano 16 anni. Ed era una signora di 50 anni. E beh, dunque... Ma la prima cosa che ho fatto è sono andato a guardare Dio. A baciare quindi Dio. Lei considererebbe... La prima cosa che ho fatto. Cioè, lei considera, l'organo femminile Dio addirittura? Sì, sì, Dio. Dio. La donna è Dio. È una specie di bestia. È la natura. Ho capito, ma lei ha detto è andato subito a guardare Dio, cioè è andato subito... Sì, sono andato a parlare con Dio. A baciare subito. Dio. E lei mi diceva, no che sei piccerito, no che sei piccerito, no che sei bambino. Ma è una specie... Ma lei, signor Buzzanca, ad esempio, consiglierebbe a un giovane tredicenne di farsi svezzare da una nave scuola altrimenti... Sì, sì, come no, ma... Certo. Ma svezzare ormai non è più come un tempo. Ma sì, ma ormai è più facile, non è che bisogna andare dalle prostitute ormai. No, anzi le prostitute si stanno scioperando, mi sembra. Comunque Lando Buzzanca, Terra Ribelle 2, lo vogliamo dire, la saga. Sì, beh, diciamolo, adesso dai. Terra Ribelle dalla prossima dal prossimo lunedì. No, domenica, domenica anche. Cioè, no, da lunedì. Ah, lunedì? Sì, tutti i lunedì fino ad adesso. Dopo sarà domenica e lunedì le ultime due puntate. Cioè, domenica 7 e lunedì 8? Perché, sì, ma il lunedì prossimo che c'è, cominciano i colpi di scena. Ma che è Rai 1? Rai 1? Rai 1, come sì. Si chiama questa fiction? Terra Ribelle 2. Terra Ribelle, sì, Terra Ribelle. E lei chi interpreta? Io faccio un generale Malagridas, un uomo sfaccettato. Ma lei è ancora un po' fascista? Sono? No, è ancora un po' fascistoide, Buzzanca. Fascista io? No, fascista. No, non sono mai stato fascista. Io sono un siciliano, stavo dicendo un siciliano, sono un socialista, sì. Un socialista liberale, sono un socialista di destra. Un po' missino è stato prima, o no? Beh sì. Sì, certo, Alleanza Nazionale con Gianfranco, con Fini. Certo, sì, che brutta fine politica ha fatto Fini, Ma tutti stanno facendo una brutta politica, fine politica, una brutta politica e una brutta fine politica, ma tutti. Adesso, per esempio, sì. C'è chi ha del PD dice che hanno vinto, ma che hanno vinto? Ha vinto Grillo, le piace Grillo? Hanno perso di più. Grillo le piace? Sì? Grillo le piace? Sì, mi piace, è un ragazzo che si è appropriato dei desideri, delle cose della gente normale, della gente quella vera, quella che lavora e quella che si fa il mazzo, e lui porta avanti, se lui, anche lui, riuscirà a realizzare quello che dice, lui potrà fare una carriera politica straordinaria. Lando Buzzanca, grazie, a presto, un abbraccio, 20:53, Padre Amort ha smentito tutte le cose che gli ha attribuito l'Espresso, aggiornatevi la prossima volta, anche Dagospia stasera ha pubblicato la lettera di smentita, solo voi non ve ne siete accorti, Paolo Rodari del Foglio mi ha scritto questa cosa, ma noi non abbiamo detto assolutamente nulla di diverso, perché non è che ha smentito tutto, ha smentito la cosa su Monti, non è che ha smentito la questione dello yoga e altre cose, non diciamo stupidaggini, noi non abbiamo attribuito assolutamente, anzi la cosa di Monti gliel'abbiamo chiesta e lui l'ha specificata. Sì. Dove andiamo? Gli ultimi minuti della zanzara. Guido da Milano, buonasera. Ma andiamo a casa. Andiamo a casa. Mi inchino Lando Buzzanca, grandioso nelle ultime interpretazioni, ma immortale nelle prime. Questo segno di rispetto. Poi? Veto dei Grillini a partecipare al talk show. Ma Parenzo, non è una limitazione personale e non so, il diritto inviolabile di espressione e di comunicazione. È un limite al ruolo. Il ruolo ha delle regole, le regole di quel ruolo le scrive Grillo. Chi non è d'accordo, abbandona quel ruolo, si riappropria delle proprie prerogative personali inviolabile e le va a esercitare. Ma mi dispiace che lei non ha perso un'occasione per ragionare. Non c'è più tempo. Edmondo da Roma, buonasera. Ha perso un'occasione però. Edmondo da Roma, un attimo solo. Qui. Pronto? Avvocato Pecorella, buonasera, Cruciani dalla Zanzara. Salve. Anche Parenzo. Buonasera. Senta, no, vogliamo chiarire questa Ciao, cosa di Fede che dice che praticamente del milione di euro, questa storia del milione di euro. Abbiamo già fatto un comunicato. No, ma appunto volevamo... La Lecce e Dio. Appunto, ce lo spieghi un attimo bene. Molto semplice. Vi ha pagato, sì meglio o no? Meglio Fede non ha pagato una sola lira e non ha nemmeno rimborsato le spese delle copie degli atti. Aggiungo che quando è stato liquidato da Mediaset, che avrebbe dovuto, lui si era impegnato almeno sì. a far fronte alle spese, in realtà non ha fatto neanche questo, quindi la cioè sua, le spese legali per la, della separazione da Mediaset, cioè le spese no, di che no, cosa? No, lui è stato avuto una somma come liquidazione. Lui dice di no. Naturalmente, come no? No, lui dice che non è stato... Ha avuto una somma come liquidazione. Che cosa avrebbe dovuto fare? Beh, era l'occasione in cui perlomeno... Ah, darvi dei soldi, sì. Sono due anni... No, no, ma lui si era impegnato a questo. Sì. Visto che sono due anni che lo assistiamo, sì. in un processo per bancarotta, nel processo di Roma, della denuncia sì. per calunnia che abbiamo sì. fatto. Non so, 3, 4, 5... denuncia per diffamazione. Ma tu continuerai ad assisterlo? Continuerai ad assisterlo? Ma o lui rettifica quello che ha detto, anche sì. se ho visto che poi nelle agenzie dice no, non ho pagato, dovrei pagare in futuro, eccetera. Ma quant'è la parcella? Di quant'è sta parcella? Vabbè, questo è il rapporto con il mio cliente. Vabbè, lui dice un milione. No, la parcella di un milione non esiste. Che ne so, 300.000, 400.000, quant'è? Non si può dire. Non si può dire adesso. Vabbè. No, questo è un rapporto. No, certo. Lei ha ragione, sì, no. Certo. Se lo vuole dire lui lo dica. Comunque, o rettifica oppure smettiamo di assisterlo, non giusto? No, la Lecci ha già smesso di assisterlo. Scusami se ti do del tuo. Lecci ha smesso da tempo, da un mese e mezzo di assisterlo. Devo chiudere, Gaetano. Non l'ho voluto lasciare solo, ma questa dichiarazione, questa intervista, veramente, come noi abbiamo scritto nel nostro comunicato, sì, spiacevole. Falsa. No, falsa. Ci torniamo domani, Gaetano, che non ho più tempo. Grazie. Giornale Radio. Radio 24. La passione si sente.